Buonasera a tutti, buonasera. Prova, va. Senti che applauso caloroso. Beh, insomma, cioè, nel senso, una bella merda, però non è che ci meritiamo di più. Si sono rotti il cazzo di aspettare. Da quanto siete qua? In generale? Da ieri? Forse l'avete presa troppo seriamente questa serata. Potevate arrivare anche un po' dopo. Cosa diciamo? Aspettiamo quelli che stanno rientrando. Tanto perdiamo qualche minuto di tempo. Guarda quel faccia di merda col baffo là in fondo. Ma con chi ce l'hai? Con uno dei gestori? Con il gestore. Volete sapere che e Valerio tutte le sere che facciamo spettacolo qua tratta pesci in faccia i gestori? Non si capisce per quale motivo, visto che dobbiamo tornare a fare le serate, ma lui è un ragazzo fatto così. Pietro Belfiore, signore e signori! Che umiltà che si siede... Il bello che la gente ti applaude come... Ah, Pietro Belfiore! Il celeberrimo Pietro Belfiore! Il grandissimo. Chi è la prima volta che viene qua? Beh dai, qualcuno... Ma qualcuno è già venuto. Quindi spieghiamo brevemente che cos'è questa serata. No, spiega tu. Se dico spieghiamo è un lancio a te. Esatto. Allora, questa è una serata, signori, come dice il titolo, brutta. Qui non c'è qualità... Non l'abbiamo nemmeno. Non la cerchiamo nemmeno. No, qui c'è solo lo schifo dell'essere umano. Le persone che saliranno sul palco questa sera sono tutte persone che stanno male. Quindi ridere o non ridere dipende da voi. Sappiate che a fine serata qualcuno potrebbe suicidarsi. Quindi mettetevi una mano sulla coscienza. Sappiate che fare schifo è importante, se qualcuno voglia cagarsi addosso in sala, noi siamo felici. Fatevi un applauso perché non è facile essere qui in questo momento. Ha ragione. Quando ci sono tanti altri locali bellissimi, cioè uno dice vengo all'Exalge, no? Ma sai quei locali dove magari ti danno anche qualche soldo? Esatto. E invece la gente continua imperterrita a venire qua per le serate che organizziamo io e te. Ci sono serate dove c'è anche la stand up con i comici bravi. E poi ci sono queste serate. Potevate essere ai Gepensimi. E invece siete qua. Il Gepensimi è sempre oggi o ieri? Quando è? Ah no, ieri, non ci siamo messi in concorrenza. Chi abbiamo di concorrenza al giovedì? Al giovedì abbiamo... Chi è che fa stand-up al giovedì? Bastardi, parlate! Sei qua, vero? E ci spii! Uomo di merda, ti metto le mani in faccia! Vai, dammi il microfono! Dove sei? Fatti vedere se hai coraggio! Fatti vedere! No, è grosso! È grosso, non è vero, l'avresti detto di chiunque! Sì. Che belle queste gag preparate, no? Preparate da te, io non ne sapevo niente! Quindi tutta roba farina del tuo sacco. Sai che ho letto una recensione che dice la serata all'Exalge vede presentare ai Rockmeyer e Fadenti i nuovi Stanlio Olio. Ma che bello, che soddisfazioni. Ora, abbiamo introdotto la serata. Abbiamo fatto qualche precisazione? Sì, l'unica precisazione è che appunto questa serata brutte persone... Ah, i soldi, diglielo! Aspetta, i soldi, un attimo, ho presa piano, non è che puoi dire i soldi, c'è già ma hanno già visto mettere la busta prima, è una tristezza arrivare quando c'è già il pubblico seduto, dovresti farlo prima, quindi vedono uno scappato di casa che mette delle buste sui tavoli. In più qualcuno ha pagato il biglietto, qualcuno ha pagato la tessera, per raccattare due o tre monete bisogna darsi da fare questa sera. Comunque sai che questo è l'apice del nostro pubblico, perché c'è un sacco di gente incuriosita. Poi vedrà la serata, ne parlerà male alle altre persone e non verrà mai più. Giochiamocela malissimo. Quindi raccattiamo tutto quello che possiamo raccattare ed iniziamo. Abbiamo scaldato a dovere il pubblico. C'è allora, il primo ospite. Posso dirti che il primo comico sale... E fa schifo? Allora, No, una domanda. Sì, lui fa schifo, l'ho scelto io. Però sale con una condizione, secondo me, non facile perché... Noi non gliel'abbiamo preparata benissimo, a dire la verità. Dici? Non abbiamo scaldato molto bene il pubblico. Aspettiamo, scaldiamolo ancora. No, perché questa è una serata di merda. Esatto. E quindi ci teniamo che il primo comico, che è un ragazzo che io ho conosciuto qualche anno fa, Zelig, stava facendo il laboratorio Zelig, e ha fatto un pezzo che faceva veramente schifo. L'ho ribeccato un paio di mesi fa, gli ho detto, ma te... Porti ancora in giro quel pezzo? Sì, lo voglio all'Exalge. Fate un applauso al comico più di merda che io abbia mai visto, Francesco Maggioni! C'è da precisare anche che Valerio è un grandissimo figlio di puttana, comunque. Allora, mi ha dato... Allora, buonasera a tutti, infatti. Grazie per averlo scaldato a dovere, questo pubblico. Facciamo ancora un po' più di calore con gli applausi, dai, su. Che già mi sto cagando io nei pantaloni, perché questa, appunto, è una serata brutta e io non ci sto bene nelle serate brutte. Allora, io sono Francesco Maggioni, sono un doppiatore. E infatti ho conosciuto Valerio in radio, in realtà, ultimamente, perché lui si cagava sotto. Adesso lui è la new entry dello Zoo di 105, no? Mauro, infatti, era lì tutto... Dai, fate una, vieni qua, vieni un attimo su, dai. Vieni su, pirla, dai. Tanto ci stiamo, anche se ci sei tu. Questa era forte. Era lì, allora, l'ho beccato appunto in sala, no? Io collaboro con lo Zoo da qualche anno, lui era lì tutto timidino, no? Che diceva, oh, ciao ragazzi, sì, sono io, sono Valerio Airo, posso introdurmi? Loro niente, proprio un cazzo, non lo cagavano minimamente. Poi io arrivo, io, Vale! Lui ha iniziato, sì, mi offri una sigaretta, d'accordo? E boh, è iniziato così il nostro rapporto e siamo andati avanti all'infinito. E adesso tu mi devi un sacco di sigarette, tra l'altro. Signore, questi sono cazzi nostri. Mi raccomando, siate clementi con questo figlio ragazzo, di puttana. Perché mi ha effettivamente dato un sacco di sigarette, io gli ho promesso che c'era un pubblico facile. Quindi dategli una soddisfazione nella vita. Mi raccomando. Francesco Maggioni! E via! Buonasera di nuovo. Dunque, io sì, sono Francesco Maggioni, sono un doppiatore e sono contentissimo di fare il doppiatore perché è quello che sognavo da tutta la mia vita, no? Fin da quando ero piccolo. E poi crescendo ne ho capite le ragioni psicologiche, la ribellione nei confronti dei miei genitori. Sì, io volevo fare il doppiatore perché fin da quando ero piccolo i miei genitori mi hanno sempre detto di non parlare sopra le persone. Questa è la battuta più forte del pezzo, vedo che è entrata, minchia, me l'hai scaldati alla grande, grande. Bella, bella, visto che del doppiaggio non gliene frega un cazzo di niente a nessuno e nessuno capisce un cazzo di doppiaggio, parliamo di qualcosa di più tipico, tipo le relazioni, no? Oh, l'argomento preferito di tutti i comici, la ex ragazza, sì, parliamo proprio di questo questa sera. E loro hanno fatto bene, perché a mettere me in principio, appunto, in testa alla scaletta è un dovere rompere il ghiaccio. E rompere il ghiaccio è quello che noi facciamo, noi esseri umani, lo facciamo in continuazione, adesso vi lascio anche con la perla di filosofia, no? Noi esseri umani facciamo in continuazione questa cosa, anche inconsciamente, nelle relazioni, nel lavoro, nei rapporti umani in generale, noi cerchiamo di rompere il ghiaccio. Ma nessuno si preoccupa mai di quanto sia importante ricostituire questo ghiaccio. E infatti io lo faccio sempre, ad esempio, alle feste, no? Feste tipiche, appunto, cioè, sei lì col tuo drink, c'è il gruppetto che parla per i cazzi suoi, tu ti avvicini lì, e provi a introdurti nella conversazione. Io di solito provo col doppiaggio, non funziona mai un cazzo, come non ha funzionato anche con noi in questo momento, avevo provato a rompere il ghiaccio così niente. E allora ho scoperto scientificamente, proprio sulla base scientifica, qual è l'argomento che per rompere il ghiaccio funziona sempre. Dragon Ball. Ragazzi, è incredibile, dai ragazzini ai vecchi, se vai con Dragon Ball vai sul sicuro. Allora appunto sono lì che provo, no? Che loro si stanno facendo i cazzi loro. E io faccio il doppiatore, ah, che cazzo ce ne frega? Ah, va bene. Neanche se avessi doppiato Dragon Ball. E loro, boom, minchia, diventano tuoi, subito, inizi. E allora, boom, il ghiaccio è stato rotto, iniziate. Ah, Majin Buu, minchia, Goku, Vegeta, così, così, così. Ma ad un certo punto ti viene in mente che devi ricostituire questo ghiaccio. Quindi sei lì che stai parlando, ah, Goku, Vegeta, sì. E te ne esci con una frase tipo, ma prima o poi tutti moriamo. Ghiaccio. Loro si intristiscono proprio così, cioè rimangono lì col drink in mano e tu lentamente ti levi dai coglioni. E questo è una metafora di ciò che va fatto anche nella vita. Io e la mia ragazza ci siamo lasciati in comune accordo. Lei è un po' più d'accordo. Le cose non andavano bene, troppo diversi. Lei psicologa, io comico, che poi in realtà non sono così diversi. Entrambi puntano a far star bene la gente. Lei ci mette qualche anno, io qualche secondo. E quando glielo dicevo, lei mi rispondeva, sì, ma dovresti impegnarti a far star bene me, possibilmente mettendoci più di qualche secondo. Oh, che ridere, anche era lei la vera comica, puttana di merda. Inizialmente, ovviamente, ricordo ancora il nostro primo appuntamento. Qua vi do un altro consiglio di vita, ragazzi. Per il primo appuntamento non fate cose fuori di testa, andate in un posto singolo, a Brescia. Perché sapete cosa c'è a Brescia, cazzo? C'è la pasticceria di Gino Massari, che è una roba fuori di testa. Tu entri e sembra già di entrare nella morte nera di Star Wars. Infatti c'è lui là dietro, no? Qua c'è la cosa dei pasticcini e lui tre volte su cinque lo incontri ed è là dietro tutto vestito come Palpatine. Nessuno ha mai parlato di quanto cazzo somiglia a Palpatine di Gino Massari. E lì proprio, appena entri, alza lo sguardo e arriva volando. Che cosa è che vuoi? Secondo te cosa... Secondo te cosa cazzo voglio, vecchio bastardo? Sono in una pasticceria, vorrò un pasticcino, no? Ci sono solo questi qua. Lei mi fa... Ci sono solo questi qua in esposizione. Quello che c'è lì. Molto simpatico, Gino Massari. Vabbè, quindi, scelgo il torta alla fragola dell'infinito oltre la siepe e pasticcino al cioccolato, così lui da ogni tanto da nomi strani, ogni tanto non gliene frega un cazzo. Quindi prendo quei due, mi porta allo scontrino e mi dice: allora, per comprare i nostri pasticcini mi devi presentare gli ultimi tuoi 3 stipendi e la dichiarazione dei redditi dell'anno scorso. Va bene, quindi costano un casino quei cazzo di pasticcini. Quindi apro il mutuo, prendo i pasticcini, andiamo a mangiarlo. E appena lo assaggiamo, i pasticcini di Gino Massari sono... Mi viene da piangere a pensarci, ragazzi, veramente. Avete presente la scena di Ratatouille con Antoine Go alla fine che fa quella roba lì, no? Però suscita delle corde subliminali che ti fa venire una voglia incredibile di scopare, ma pazzesca proprio. Quindi il primo appuntamento è andato alla stragrande. E infatti, dopo il pasticcino, siamo andati, non abbiamo neanche finito il torta dell'infinito del Gesù Cristo, proprio c'è, è stato meraviglioso. Siamo andati diretti in macchina e fine. E lì ci siamo messi insieme. E all'inizio le cose erano bellissime, ovviamente, come tutto, tutto rose e fiori, all'inizio meraviglioso. Poi sono arrivate le prime rotture di cazzo. Ad esempio, ad un certo punto, lei si è resa conto che non le andava più bene niente di quello che facessi. Niente proprio, non voleva neanche che facessi il comico. Mi diceva: ah, sei simpatico, sì, ma non fai ridere. Mi diceva: non fai ridere a un comico. Sei simpatico, sei tanto caro, ma non fai ridere. Tu sei nato per fare del sesso, dedicati al sesso, lì fai ridere. Lei in realtà, cazzo ragazzi, era un autore con i controcoglioni. Poi, oltre a tutte queste cose che non le andavano bene, si è resa conto che non voleva venire a vivere a Milano. Io è tutta la vita, ragazzi, io non sto a Milano, è tutta la vita che voglio vivere a Milano. Tutta proprio, perché vabbè, appunto faccio il doppiatore, quindi studi, pubblicità, radio, i cazzi sono tutti qua, e un po' perché, ragazzi, facciamo un applauso a Milano, che è la città più bella del mondo, su! Cazzo, Milano! Fa caldo in questo cazzo di Exalge. Ma lei no, lei voleva stare là, ragazzi, io abito a Cardano al Campo, avete presente? No, ecco! Che cazzo, ma che cazzo, conosci che... Eh? Ah, il Nautilus, vero, ma che... Ma che cazzo di target c'è in questo posto? Io pensavo della mia età. Ex-Alge proprio. Fosse stato Alge. Vabbè, ok, vabbè. Vabbè, Cardano al Campo è una città lontana da tutto, ragazzi, anche dal pensiero. E lei voleva stare là, in quella merda di posto proprio. Così adesso butto, arriva il sindaco. Tra l'altro hanno sparato a diversi sindaci a Cardano, quindi lasciamo stare. Vabbè, comunque, lei voleva stare là. E io veramente, apro e chiudo parentesi, sono 3-4 anni che dico di volermi trasferire a Milano e solo la settimana scorsa mio padre se ne esce fuori dicendo: oh fra, ma lo sai che lo zio Paolo... Mio padre è Pippo. Oh fra, ma lo sai che lo zio Paolo ha diversi appartamenti a Milano, potresti chiedergli, non avresti spese, non pagheresti neanche l'affitto. Papà, ma quanti anni sono che ci conosciamo io e te? Sì, vabbè. E poi un'altra cosa, sempre che ci ha allontanato a me quella troia là, che diceva che non l'ascoltavo, ma non è che non l'ascoltavo, è che lei parlava solo di due argomenti: psicologia, come diceva una psicologa, e gratta e vinci, no, che sesso, gratta e vinci, magari, che ti sento, c'è un microfono che funziona, chi l'ha detto, quella di Saron, vai a fanculo, vai a Saron, allora, scusa, mi sto sudando, scusa, sai, la rottura del ghiaccio, che cazzo stavo dicendo? Sesso e gratta e vinci. Sesso e gratta e vinci. Lei era ossessionata dai gratta e vinci, ragazzi. Ne grattava 1 miliardo tutti i giorni, non vinceva mai. Mai successo una volta. Era talmente ossessionata dai gratta e vinci che li portava anche nella nostra intimità. Tipo sei lì nel letto, no? Magari si fanno i giochini di ruolo. Fai il dottore, fai il ladro e la ragazza sexy, no? La poliziotta sexy, così. Qualcosa in cosplay, cose così, no? No. Lei voleva giocare solo al turista per sempre. Questa anche è carina, dai. Cagata. Comunque, le relazioni sono fatte. Vabbè, fermiamoci un attimo che questa arriva dopo. Queste sono le battute in lì. Queste, le relazioni ovviamente sono fatte anche di compromessi. Quindi ogni tanto anch'io grattavo qualche gratta e vinci insieme a lei e questo era il momento di massima intimità per noi due. Una volta ho vinto 5 euro. E lei ha dato di matto, sembrava uscita da un cartone giapponese, ha iniziato proprio a parlarmi in giapponese, ha visto i 5 euro, Urio, Francesco, Nondoya, Omaya, Shindeiru, cosa, che cazzo stai dicendo, è uscita un'aura proprio con la mia voce, cioè sembrava doppiato da me, ha tirato fuori, non la katana, ma una monetina, ha iniziato a grattare tutto in casa, il muro, le foto, il pavimento, è uscita fuori, ha preso il mio cane, ha iniziato a grattarlo, l'ha scuoiato ed è andata via. Io esco fuori, Nani, prendo il cadavere del mio cane, Sanni, l'accarezzo e sotto la pelle scuoiata c'era la scritta "hai vinto". Pazzesco questa cosa. Dopo che mi ha ammazzato il cane, le cose ovviamente sono degenerate. Io cercavo di tenere un po' in piedi questa relazione facendo il sottone. Ero talmente sottone che una volta le ho addirittura lavato la macchina. Nessuno lo fa più, ma io sì. Ho passato una giornata intera a lucidarle, insaponarle, risciacquarle la 500. Lei si affaccia dalla finestra e io, Fra, sono 5 anni che ho una punto blu, quindi mi sa che davvero non l'ascoltavo. Va bene, e da quel momento ci siamo veramente lasciati. E per me è stato un vero e proprio lutto. E infatti ne ho affrontate le 5 fasi dell'affrontamento del lutto, psicologa dei miei coglioni. La prima è la negazione. I giorni seguenti facevo come se tutto fosse normale. L'andavo a prendere a casa, la portavo al ristorante, al cinema, di qua, di là, in macchina, proprio normalissimo. Poi ad un certo punto mi sono rotto i coglioni perché tutte le volte dovevo portare a casa lei e il suo ragazzo. Poi c'è stata la rabbia, dove veramente sono diventato una furia, ho iniziato a spaccare tutto, i regali, i ricordi, di qualsiasi cosa, sono addirittura arrivato a dar fuoco a una macchina. Lei si affaccia dalla finestra e mi fa "una punto blu, coglione, ancora". Niente, vabbè. Poi c'è il patteggiamento, poi c'è la depressione, la fase... E poi finalmente arriva l'accettazione. Dove mi trovo in questo momento? Ho accettato la cosa, mi sono lasciato dietro alle spalle... E vi ho raccontato tutte queste cose per dirvi che io sono single, ragazzi, tra l'altro. Quindi cioè, e tra l'altro ho rotto il ghiaccio. Ma prima o poi tutti moriamo. Grazie. Grazie. Francesco Maggioni. E con questo pubblico mi merito 10 sigarette. Che schifo che fai. Grazie. Ora, noi stavamo riflettendo su una cosa, cioè, visto che lui è andato bene, se rovinare subito la serata facendo noi uno sketch brutto... Io farei andare avanti almeno il secondo, perché... Ti dici, mandiamo avanti il secondo? Sì, perché se facciamo lo sketch noi, fa schifo. Abbiamo fatto un comico, sono già 10:20, finiamo le 2 di notte ed è venuta una serata di merda, quindi... E non era il nostro obiettivo. Sì, ma non così di merda. Va bene. Per provare almeno a farli tornare un'altra volta e fare quella brutta brutta alla seconda. No, raga, lo sketch! Una voce sola si alza! Esatto. Ed Enrico Veronica. Hai sentito che voglia di sentirci fare lo sketch che c'è stato. Non a caso il più matto del locale. Che sarà tra poco. Ma andiamo avanti con la prima quota rosa della serata. Perché abbiamo questa roba politicamente corretto. Anche noi dobbiamo far esibire le donne. C'è una sovvenzione del comune. Una scelta che io non ho avallato, ma di cui la responsabilità tutta mia. Assunto. Tutta mia, Fadenti. Quindi mi assumo io ogni responsabilità. Vuoi dire qualcosa in merito sulla ragazza che sta per esibirsi? Allora, ti dico, le ultime volte è venuta a esibirsi, il commento del pubblico è stato Però scusa, di quello di prima hai detto che faceva schifo e ha fatto molto ridere. Vabbè, questa... Cioè tu crei l'aspettativa talmente bassa che comunque il comico... No, c'è gente che sta... È psicologia. Sta bene, signore, serve un dottore. Un applauso a Enrico Veronica. Sarà a breve. Andiamo. Chiamiamola. Silvia Conti. Beh, innanzitutto ringrazio i conduttori per questa introduzione, li ringrazio anche per aver messo la mia voce nasale subito dopo il doppiatore, perfetto, non so nemmeno dove sia il diaframma, quindi cercherò di differenziarmi portando un messaggio sociale, anche un momento di cordoglio. Da 2 giorni è mancata Angela Lansbury e quindi vorrei fare un minuto... Volevo proporvi un minuto di silenzio per ricordarla, tanto sono solo le 10:20. Vabbè, dai, lei non è mai stata zitta di fronte a un cadavere, quindi andiamo pure. Io sono abbastanza felice di essere in mezzo alle brutte persone, perché comunque io qua vengo solo per spalare merda su mio marito, che è questo in prima fila. Però la prendo larga, la prendo da lontano, quindi all'inizio vi confondo e parliamo di vacanze. Ognuno di noi in vacanza cerca qualcosa, c'è chi si vuole rilassare, chi vuole rimorchiare, c'è chi vuole trovare se stesso, quelli più ispirati, perché viaggiare è una passione, come scrivono sul curriculum quelli bravi, quelli che poi vengono chiamati a fare i colloqui al mio posto, che sul curriculum nella sezione interessi metto podcast di true crime in cui l'omicida è una donna e il delitto avviene nell'ambiente di lavoro. Io comunque dalle vacanze voglio solo una cosa. Io voglio le foto per i social. Allora, io voglio delle foto che facciano vedere ai miei contatti in quali e quanti posti pazzeschi sono stata, perché vivo dentro di me una straziante dicotomia, che è quella di essere nata a Ligure, quindi particolarmente oculata con i soldi che escono dal mio portafoglio, ma di vivere a Milano da 20 anni, quindi di aver imparato a ostentare le cose, o come si dice al giorno d'oggi, a flexare. Io quindi dalle vacanze voglio delle foto in cui sembra che sono buona, delle foto col tramonto che mi sfidano, delle foto che potenzialmente utilizzerei su Tinder se tornassi single. Io non mi vergogno di dire che questo delle foto in cui sembra che sono buona è proprio il mio più grande desiderio nella vita, cioè se io trovassi la lampada di Aladino chiederei foto in cui sembra che sono buona, e lo dico anche un po' per sollevarvi, per farvi sentire un po' migliori di me, che poi è lo scopo di queste serate, altro che la catarsi del teatro greco. Comunque tra me e questo desiderio si frappone un grande ostacolo, che è appunto che io non sono single ma sono sposata, e le foto me le deve fare mio marito, che sto addestrando da 10 anni. Una volta era tutto più facile, cioè prendete ad esempio Vittorio De Sica, aveva preso delle persone comuni, persone prese dalla strada, aveva tirato fuori ladri di biciclette ed era stato subito padre del cinema italiano, Golden Globe, Oscar onorario. Ecco, io penso che a volte per me sarebbe più facile vincere un Oscar piuttosto che riuscire a trasformare mio marito, che comunque è preso dalla strada, si vede, in un vero fotomarito. Ora, se parlo di fotomarito, tutti sapete di che cosa parlo, anche se non seguite quegli account tipo Boyfriends of Instagram. Se siete stati in vacanza al mare ne avrete visto qualcuno che era aggrappato agli scogli durante una mareggiata. Se era in montagna, era su una ferrata, appeso con una mano sola, senza imbragatura. E anche qua a Milano, nella Fashion Week, li avrete visti sdraiati a pancia in giù sulle rotaie del tram, ma non quelle dismesse, quelle in zona Duomo, dove passa un tram ogni tre minuti. Ovunque fosse, il fotomarito stava rischiando la vita per fotografare una donna e aveva tutta la mia ammirazione, e dico ammirazione perché qua non c'è il proiettore, altrimenti vi avrei fatto vedere il meme della ragazza con le gambe spalancate sopra la fontanella che sgorga, perché quello è il tipo di ammirazione che provo per chi riesce a farmi le foto da bona. Comunque, all'inizio della nostra relazione, il mio attuale marito promette bene, e qui avrete notato che ho cambiato tono di voce, il tempo è diventato il tempo verbale a presente, come succede nei podcast per riacchiappare la vostra attenzione. La prima volta che usciamo si lascia sfuggire qualcosa come «Sei carina stasera, ti faccio una foto». Io all'inizio mi schernisco, gli dico ma no, ma dai, indosso uno straccetto, effettivamente indosso 150 euro di vestito comprato 2 ore prima perché ero disperata e 300 euro di scarpe che mi stanno anche facendo sanguinare i piedi perché le ho prese di un numero più piccolo, erano scontate online ma io ero un preciclo. Comunque nei podcast di True Crime il preciclo vale come attenuante negli omicidi, quindi figuriamoci se non lo uso io come attenuante per il mio shopping compulsivo. Comunque all'inizio mi nego e gli dico ma no dai, poi mi metto in posa senza neanche sforzarmi troppo, lui scatta e io rivelo la mia vera natura, sono un avvoltoio che si fionda sul suo telefono e gli dico mi fai vedere com'è venuta? Per lui è l'inizio della fine. Io inizio con le mie richieste per metterlo alla prova, quindi gli chiedo una foto a figura intera in cui mi tagli le ginocchia, perché non mi piacciono tanto le mie ginocchia, e lui mi dice ma cioè devo prendere anche i piedi, e io certo indosso delle scarpe da 300 euro, devi fare una foto a figura intera ma mi devi tagliare le ginocchia. ed è incredibile perché lui all'inizio della relazione ce la fa, è un genio, è il Cartier-Bresson del Samsung S20, riesce nel miracolo. E pensa che quella foto sarà un ricordo interno alla coppia per uso romantico. Illuso è tutto materiale destinato ai miei cazzo di social, perché nella maledetta dinamica di coppia eterosessuale in cui si è andato a cacciare, adesso lui sa che dovrà immolarsi per il bene supremo, che è la soddisfazione della committente, che sono io, nei confronti delle foto in cui vengo bene, oltre che la soddisfazione della committente, che sono sempre io, nei confronti dei like che prendo su Instagram dalle mie amiche, laddove per amiche ovviamente intendiamo competitor nella guerra delle foto in cui sembra che sono buona, e dei miei amici. Laddove per amici ovviamente intendiamo ex fidanzati che devono vedere bene che cosa si sono persi, i bastardi, e magari devono anche farsi scappare qualche like mentre scorrono il mio feed per dedicarmi una sega commemorativa. Col progredire della nostra relazione, per metterlo alla prova, lo porto anche in viaggio. Programmo dei viaggi che scelgo in base alla palette del mio feed, ovviamente, e al fatto che da lì sia passata a Chiara Ferragni, un po' come nel Medioevo si programmavano le gitarelle sulle orme dei santi, credo per farsi fare dei ritratti senza prospettiva con gli stessi sfondi che andavano di moda sulle pale d'altare. Le foto non mi bastano mai, diventa una droga, io ne voglio sempre di più e le voglio sempre più artistiche. Allora una volta gli chiedo: mi fai una foto inquadrandomi dal basso che si veda bene il quadricipite che mi sono fatta quest'anno in palestra, però non una foto posata, cioè falla che sembri uno scatto rubato, tipo una cosa di tua iniziativa che mi hai vista in un momento di eccellenza muscolare e hai deciso di immortalare il momento. E questo è uno dei ricordi più belli della nostra relazione, perché lui quella volta è stato proattivo, eravamo sui navigli, lui si è buttato nei navigli, l'acqua fino alla cintola e ha scattato. Vabbè, poi ha preso ovviamente una multa, gli sono venuti dei funghi sulle cosce, anche sullo scroto, se ne è lamentato un mese. Però io quella foto ancora la uso come profilo su LinkedIn, l'ho messa su Instagram e ho preso 3 like dei miei ex. Purtroppo gli incidenti in questo sport estremo che è il fotomaritismo sono all'ordine del giorno e portano alla fotovedovanza di noi committenti. A me è capitato più volte, questo è il quinto fotomarito. Tra loro mai nessuno che mi abbia dato la gioia di morire in modo abbastanza spettacolare da dedicarsi un podcast. Comunque non vorrei sembrare insensibile, perché il decesso di un fotomarito è sempre un brutto colpo, soprattutto dopo l'impegno profuso nel suo addestramento. Ovviamente sperando che l'attuale duri a lungo, io ho iniziato anche a pensare al futuro e ho ricevuto un prezioso consiglio di puntare sulle generazioni più giovani, sui nati negli anni 2000, perché questi sono già stati addestrati dalle loro madri, cioè quando erano bambini al mare volevano nuotare, costruire castelli di sabbia, le madri chiedevano loro di fargli quelle foto un po' osé tra gli scogli, foto che dovevano ovviamente postare sui social per avere i like dei loro amici, laddove per amici intendiamo ex mariti, e delle loro amiche, laddove per amiche ovviamente intendiamo competitor che al momento si trombavano l'ex marito. Questi giovani quindi non necessitano addestramento, sono già pronti a diventare fotomariti, a combattere per il bene supremo che è la soddisfazione della committente. Poi da quello che ho sentito dire in giro si lamentano anche meno, quindi io credo che se prendessero 2 funghetti sullo scroto non farebbero tante storie. Grazie. Silvia Conti! Posso dire? Non? Ah, ok. Pietro Belfiore! Di nuovo, again! Un grande artista. Poco ha fatto un libro, vi consiglio di cercarlo. Per i vostri figli, per i vostri nipoti, un grande scrittore. Come si chiama il libro? Come, non lo sai, l'hai fatto? L'enigma del libro senza nome, un difficile, libro di Pietro Belfiore. È titolo un difficile, giallo vincente anche per un adulto. Che vi porterà nelle menti di un serial killer. Va bene. Sai che sono molto felice di averlo pronunciato bene. Per dirlo. Sono molto fiero, molto fiero. Allora, ragazzi, non era nella nostra previsione che dopo due comici voi foste contenti. No. Avevamo fatto male i nostri calcoli. Quindi le soluzioni sono due. Potremmo chiuderla qui e dire la serata è andata bene. Basta. Va bene. Gli altri sei che abbiamo invitato. Vabbè, si inculano. Tanto. Eh sì, arrivederci, grazie. Ma invece noi andremo avanti. Andiamo avanti con chi? Con un campione. No. Come no? Perché no? Sapete già. Proposta. Eh? No. Invece dei campioni. Ah, ok, scusami. Ci ho capito adesso. La gente. Ma è un problema mio. La gente ha già capito. Questo è il pubblico che ci meritiamo. Mentalità. Ha capito la mentalità. Inizio a capire tua moglie. Comunque. Scusa. Ma quale campione? Come il campione? Un campione che da tanti anni si butta nelle strade milanesi della comicità. Henry! Enrichetto! Allora! Dove sei? Signori! Signori! State per assistere. Lui è matto davvero? Potrebbe essere l'esibizione più bella che abbiate mai visto, la più brutta. Qui stiamo rasentando la videoarte, siamo nel mondo del teatro contemporaneo e oltre il cabaret, siamo oltre tutto, vero? Ciao, buonasera! Enrico Veronica! Buonasera! Questa è una battuta che entra sempre dopo. Questa generalmente non entra mai, eh? È la prima volta, infatti. Allora... Buonasera, io ho dei problemi con la caldaia. No, quindi se mi sentite che sto andando sulla caldaia, Harry, non parlare della caldaia. Perché altro che prima o poi si muore. No, quando vedete che magari sto parlando della caldaia. No, Harry, non parlare della caldaia. Mi sentite anche là in fondo? Mi spiace. Allora, siccome è il mio esordio stagionale di una nuova, ennesima, disgustosa stagione da comico, speriamo tutti sia l'ultima, vero? No. Sì. No. Cioè, in questo sono solidale con voi, speriamo sia l'ultima, davvero. Ma anche come essere umano, cioè proprio... Speriamo di non arrivare neanche alla fine del pezzo, ragazzi. No, anche perché poi torno a casa, c'ho la caldaia... In quell'ambiente freddo per forza, perché poi dice ambiente freddo, la caldaia, Henry, che ambiente freddo, vai a vedere la caldaia, la morte nel cuore. Allora, visto che è la prima stagionale, cazzo, tra l'altro io ho un paio di maglioncini, perché avevo caldo, sono stato 5 minuti in maglietta, c'ho già, cioè sono incriccato ragazzi, non vi dico, cioè, ma tanto vai a casa, accendi, no. Che cazzo vi ho detto? Appena parlo della caldaia mi dovete fermare. È già la quarta volta che la cito, cazzo. Oh, allora. Ci siete cascati, eh? Comunque dicevo, visto che è la prima stagionale, parliamo di etica del comico. Perché in realtà è una cosa che viene fuori ciclicamente, ultimamente tanto. Il diritto di satira, non vedo perché. Secondo me il diritto di satira non è così essenziale, no? Fin dove può spingersi il comico? Secondo me ci sono dei paletti da mettere. Cioè, prima di tutto non si scherza coi morti. Anche perché un morto generalmente non lo capisce lo scherzo. No? Cioè, vi faccio un esempio. Quel bel lo scherzo che si faceva a Cameratesco, magari a Settimana Bianca, la gita, le medie, quando c'è l'amico che dormiva, gli mettevi la schiuma da barba nel palmo della mano, poi fai bu nell'orecchio, che fa sempre ridere quel. Se lo fai con un morto non funziona, cioè hai sprecato della schiuma da barba e un tempo comico che nello scherzo è fondamentale, eh. Ora sfidatevi, fate anche una brutta figura magari in chiesa al funerale o alla camera ardente, qua parlo per esperienza personale, perché avrete già capito che io ho fatto dell'empirismo la mia ragione di vita. Tu l'avevi notato che sono empirico, vero? Allora, pensate che ho scoperto dopo anni, parlando al telefono con mia madre, che che erano morti dai parenti o degli amici di famiglia, perché non mi avverte più quando ci sono i funerali mia madre, perché lo sa che mi presento con la schiuma da barba, perché lo sa che mi presento, lo sa, scherza, com'è, ricordate la filastrota, scherza coi fanti ma lascia stare i santi, anche lì tipo Padre Pio, non mettetegli la schiuma da barba, no, anche perché poi è bucata la mano, cioè sprechi la schiuma da barba e sgocciola pure giù, e allora chiudiamola qua questa. Ora, non si scherza coi morti, cambiamo discorso, è meglio, e non è quello che state pensando, cambiamo davvero discorso, parliamo di vita in città, l'automobilista frustrato e nervoso, perché gli automobilisti sono frustrati e nervosi, guidano male, frustrati, mettono sotto il ciclista a sua volta, frustrato e intimorito, va a guidare nel marciapiede e piglia sotto il pedone, frustrato, che non ha né una macchina ma una bici, neanche una bici, la sera torna a casa e giustamente picchia moglie e figli. Ora, mettetevi nei panni di un pedone che non ha una bici, non ha un'auto, non ha né moglie né figli. È così che nascono quelli che fanno le stragi negli uffici postali. È così che si entra nell'ISIS. È così. Sì, Allah è grande, lo sappiamo, ma è così che si entra nell'ISIS. È così che si entra nell'ISIS. Fidatevi, anche qua per esperienza personale, fidatevi. Ora, non fidatevi delle apparenze. Molti che mi conoscono da anni pensano che io sia un miliardario. Non è vero. Sfatiamo un mito. Ho seri problemi economici, cioè io proprio... No, perché poi siamo tutti che pensiamo di saperne tutte di economia, no? Ah, ti fa così ridere sapere che ho seri... Perché tu pensavi che fossi... No! Che tesoro, come ti chiami? Raffaellita? No, scusa, perché stavo dicendo... Com'è che ti chiami? Come vuoi. Ok, va bene. Ti chiamerò Beretta. Vabbè, allora... Non mi fate perdere il filo, non so se avete capito che è facile che... magari qualcuno l'ha captato, quello potrebbe perdere il filo, vero? L'avete pensato? Stavo dicendo, non sono un miliardario, ma sappiamo tutti di economia, anche morti di fame. Io in realtà di economia non so... Raffaella, ragazze... No, veniamo qua e faccio... Io vorrei fare tanto un terzetto con voi. Ah, Beretta è... No, perché poi comincio a parlare di caldaie. Tra l'altro c'è questa cosa strana, che è sia il nome di una caldaia che di una pistola, quindi è un attimo, che lo sa, e lo sappiamo, che poi pensate, la caldaia, le pistole, tutte cose con cui si può suicidare uno, Tra anche i salami, anche con un salame, cioè, come sei suicidato? Inghiottendo una mortadellina. Cioè, Beretta. Ah! Allora, perché io perdo il filo ogni tanto, Stavo dicendo, io non ne so niente, cioè io di affari non capisco nulla, cioè io non riuscirei a vendere un bambino nudo a un prete proprio, io non sarei, cioè sennò... Negato, però chissà perché di economia... Pensiamo di sapere un po' tutto. Ci sono delle cose abbastanza semplici, cose che pensate riusciamo a arrivarci da soli, neanche, cioè non ce le deve spiegare neanche Rampini in TV, le capiamo da soli. Ora, per esempio, il potere d'acquisto del denaro. Sappiamo bene che, allora, facciamo uno stipendio medio milanese, lombardo, a Milano ormai con l'inflazione ci vivi giusto, a volte neanche, in altre zone d'Italia e del mondo. E che voce che ho però, In altre zone dell'Italia e del mondo, con uno stipendio milanese vivi benissimo, no? Però, insomma, dipende, dipende, tutto dipende. Perché, per esempio, mamma mia, ma c'è anche fatica. Allora, dici, va, se vai in Africa con uno stipendio milanese, vivi benissimo, è vero. Se, poi, però, perché non è così facile vivere però in Africa. Cioè, un colpo di macete, un proiettile vagante in una guerra civile. Ti pigli, ti pigli una malattia anche banale, non c'ha neanche l'aspirina, quelli. Cioè, oppure vai da una cassiera, un cassiere non ha spiccioli per darti il rest e ti offre una prestazione sessuale non protetta, pigli l'AIDS, muori. Cioè, che non gira con tante in Africa. Cioè, in Africa, parliamoci chiaro, è molto più facile creparci che viverci in Africa. Quindi, ok, con lo stipendio medio milanese lombardo in Africa, cioè, magari vivi 2 mesi, ma quei 2 mesi, ma come te li vivi da signore però? Ma come te lasciali quei 2 mesi? Ma roba che se vai al mercato nero e ti offrono degli organi umani freschi per un trapianto, che lì non hanno il mercato rionale, il mercato di Papignano, lì ha solo il mercato nero. Allora, e ti offrono degli organi freschi umani per un trapianto, tu hai così tanta disponibilità di denaro che la compri tripla dose, te ne compri. Ma neanche se devi fare un trapianto. Li dai da mangiare al cane piuttosto. In che mondo viviamo, eh? In che mondo viviamo? Voglio lasciarvi un po'. Salutarvi un po' come ho iniziato. Cioè, nello schifo generale. Buonasera, sono Henry Veronica, ma forse qualcuno di voi mi ha già riconosciuto. Mi riferisco su... Sì? Mi avete riconosciuto? Quelli che hanno dei bambini che fanno elementari in via Brunacci? Quando vanno a prendere fuori da scuola alle 4? Immaginatemi nudo. Sì, sono lui. Ciao, raga! Grande, come Kobe Bryant che butta un'esperienza. Microfono a terra. Cosa ne dite dell'esperienza fino adesso? Com'è questa serata? Brutta, bavi. Bravo! Bravo! Ma volevamo chiedere a quei signori che siete un po' più alti di età rispetto al resto del pubblico, come sta andando? Male. Male, male, ma è un male che vuol dire bene, hai capito? Mi sembra molto Stanley Tucci. Ma lui è Stanley Tucci? Che dall'America, maestro, è venuto qua stasera. In cerca di talenti. Eh? E chi ha trovato? Può dire se ha trovato un talento? Io assumerei il ragazzo col codino di fronte a lei. Si giri un attimo. Chi è il ragazzo? Vedere il volto. Mi faccia vedere il volto a Stanley Tucci. Datevi uno sguardo. Ma chi è sto ragazzo col codino? Ma sai chi non... Ah, ma è lui, scusa. Puoi dare uno sguardo a lui? No, ragazzi, allora... Voi... Siamo la puntata di Ciao Darwin, cazzo. Allora, il cavallo. È Stanley che continua a girarsi. Io ho capito cosa vuoi ottenere, ho capito. Io volevo un contatto visivo. Aspetta, che è un'occasione per questo ragazzo, un ragazzo che viene dalla strada, un ragazzo da che ha avuto difficoltà. Da che strada vieni? Da che via vieni? Non lo sa, chiede a lei, dove abiti? Eh? Dov'è? No, hai ragione, ma se te lo chiedo non vengo a rubarti in casa. Ah, McMahon, ok, ci passo tutti i giorni in McMahon. Guardate la tristezza, guardatelo tutti negli occhi. Ma perché è un bravo ragazzo? Ma perché? A non mandarlo via, che magari ha pagato. Fategli un applauso, perché è una giornata difficile per lui. Oggi purtroppo ho avuto una brutta notizia, la fidanzata... Andato. No, perché è morta? Chi è che ha detto? Chi è che ha pensato una tragedia così? Pessimista. Mamma mia, la ragazza sta benissimo, è lei? No. Sì, sta bene. Ti chiami? No, no, infatti. Un grande applauso. Un applauso alla ragazza. Basta. Che è viva. Bene, andiamo oltre. Un altro cavallo di razza che batte. Ma chi c'è? Io lo so, se tu vieni dietro, non è che tutte le volte dico un altro cavallo e tu, ma chi c'è? Cerco di capire. Cerchi di capire, se fammi finire. Ma secondo... Ah, è Robin? È Robin. Vai a fare in culo. Allora, Robin, volevo creare l'atmosfera che ti meriti, ma prego. Robin Scheller! Via, uso questo. Usali anche tutti e due. Vabbè, tipo dittatore. Grazie dell'applauso, l'applauso era chiaramente, ci sono gli amici, c'è la clac, mi fa molto piacere. C'è una cosa, devo dirlo, perché sono appena diventato top papà, da 2 mesi e mezzo. Volevo fare un pezzo su questa cosa, ma siete tutti sbarbati, non capite un cazzo. Quindi, c'è un pezzo anche sugli anziani e vabbè. Non importa. In realtà mi fa molto piacere stasera essere qua e sono papà da 3 mesi, quindi praticamente posso uscire una sera ogni mese. Dai, grazie, fatevi un applauso, era per voi, grazie, dai. E stasera avete visto un sacco di comici, in realtà veniamo tutti da un gruppo che si chiama Democomica, quasi tutti quelli in scaletta questa sera. Adesso non so se lo conoscete, non so se avete un giudizio, bravi, non bravi, però siamo stati un gruppo visionario. No, è vero, fammi dire Pietro, abbiamo iniziato nel 2006-2007, abbiamo dedicato il nostro primo spettacolo a Milano, che bella Milano, e Milano ha vinto l'Expo. Dopo qualche anno abbiamo fatto un omaggio ai Monty Python, e Monty Python dopo 20 anni sono tornati insieme. 2 anni e mezzo fa abbiamo fatto uno spettacolo sul Manzoni, sulla peste a Milano. Ci siamo sciolti. No, non è vero, adesso stiamo pensando a uno spettacolo nuovo, se siete d'accordo è su un testo indiano, il Kama Sutra. Ok? Tutti d'accordo? Tutti d'accordo. Per curiosità, visto che si parlava adesso della quarantena, del lockdown, c'è qualcuno che ha fatto il primo o il secondo lockdown da solo a casa? Da solo? 1, 2, 3. No, vi prego, tieni sul braccio, vieni qua, fatti vedere, alzate in piedi, alzatevi in piedi e prendetevi questo applauso, perché siete degli eroi. Questi eroi che sono riusciti nell'impresa biblica di finire Pornhub. Vi darei anche la mano, ma anche no. Sono tutti uomini. Ma anche le donne, avrei fatto la stessa battuta. Beh, vabbè, 3 uomini avevo. Tu vieni un'altra serata, tra un mese, esco tra un mese, vieni a cercare, vedi. Se rifai, se ci sono solo uomini, in realtà sono miei amici, si sono organizzati. Vabbè, qualcuno l'ha fatto in coppia, il primo o il secondo lockdown? Tu giustamente, e noi ci sono incerti. Quanti stanno ancora insieme? Tutti. No, dai, è stato bello. Io l'ho fatto con la mia compagna. Tra parentesi, ci ho fatto un figlio e non sapevamo che cazzo fare a un certo punto. Finito Pornhub, dico insieme. Vabbè, abbiamo imparato. No, abbiamo imparato, a parte da Pornhub, abbiamo imparato un sacco di cose. Lei da me, la mia compagna, Camilla. Da me ha imparato che durante una giornata puoi stare una giornata intera sul divano, colazione, pranzo e cena senza mai alzarti, è bellissimo. Anche io ho imparato da lei, ho imparato che il posacenere gigante a fianco al cesso si chiama bidet. Qualcuno l'ha fatto con un figlio? No, perché siete giovani. No, eh? Con 2 figli? Con 2 figli? E hai ancora tutte e 2 le figlie? Una vedi? No, lo posso dire adesso, perché me l'hanno confermato, che diciamo comunque per chi ha figli la quarantena, il lockdown, ha fatto capire alla gente che in fondo la Franzoni, che un po' lui se l'è cercata. È stato un incidente. Volevo parlare di questo, vabbè, in realtà io faccio gli spettacoli... Faccio gli spettacoli, poi per guadagnare i soldi faccio l'animatore nei centri commerciali. Vorrei parlarvi anche di questo, ma no, perché durante il lockdown non lo potevo fare. Durante il secondo lockdown sono andato in depressione e qualche collega del mondo dello spettacolo, scenografi, artisti, sono finiti in posta. E mi hanno detto, perché non provi in posta? Allora, giuro, è vero, è semplicissimo. Vai sul sito, se volete provare, se qualcuno è senza lavoro, su di Poste Italiane, c'è un banner, lavora con noi, lo clicchi, lo compili, è molto semplice, nome e cognome, e l'unica domanda che ti fanno, in Poste Italiane, sul sito, vero, così, hai parenti che lavorano in Poste Italiane? Ma così spudorato, che io per fortuna non ce li ho, perché mi immaginavo il direttore di Poste che chiama mio padre, e mio padre che risponde: mio figlio è un coglione, lascia stare. È tutto vero, ragazzi, L'unica cosa che ti chiedono per lavorare in Poste Italiane è superare l'esame di guida del motorino. Era ottobre e io a settembre, tornando dalle vacanze, mi sono rotto una gamba. Mi hanno tolto il gesso 2 giorni prima dell'esame, mi sono presentato così. Preso subito, sì, è uno di noi. Io abito a Piola, mi mandano a Lambrate a lavorare, al centro, a fare il postino di Lambrate. Cazzo, il postino di Lambrate? Figo, mica... Pensi a un personaggio degli Annacci, Il postino di Lambrate. Anche tu ci hai lavorato? Aspetta, non mi bruciare le battute, perché tutto è vero. Al postino di Lambrate, non pensate agli Annacci? Cioè io sono andato così il primo giorno in bicicletta tutto contento ascoltando gli Annacci, e mentre mi avvicino al centro smistamento di Lambrate, gli Annacci sfuma e parte Gigi D'Alessio a palla. 90 persone lavoravamo là, eravamo in 3 con la cadenza milanese, lo giuro. Adesso non è un pezzo salviniano, voglio precisare questa cosa, ma tutti napoletani. Ed è bellissimo, perché cos'è il lavoro? Il lavoro sono il postino, che è napoletano, è una persona che porta le buste ai portieri che sono sudamericani. Cioè un napoletano che porta le buste a un sudamericano. Ogni giorno della mia vita da postino era un crossover tra Gomorra e Narcos. Ed è vero, cazzo, cioè... Io ero contento perché queste cose non le scrivo. Cioè, finita la giornata, c'era il foglio del direttore, le battute per quando torni a lavorare, tieni. Mi mettono a lavorare al pomeriggio, faccio il turno del pomeriggio. Quanti di voi hanno la sensazione, hanno la sensibilità di sapere che il postino lavora anche di pomeriggio, per alzata di mano? No, è impossibile. Non mi aprivano. Io citofonavo, chi è? Salve signora, sono il postino. È impossibile a quest'ora? Sono del turno del pomeriggio. Non fate un cazzo la mattina, adesso mi fa dire che lavorate il pomeriggio. Siccome abbiamo anche le commesse di Amazon, no? Portavamo anche i pacchi. Quindi cioè, perché poi mi fanno il culo se non consegni il pacco, no? Quindi, no, signora, lei ha ordinato un pacco da Amazon, un contenitore? Sì. Ah, mi scusi, allora scendo. Mi scusi tanto se l'ha fatta attendere. Tranquilla, se avessi avuto premura sarei andata a lavorare ad Amazon. Ci ho fatto un anno, devo dire sono contentissimo, perché in realtà voglio bene, cioè mi hanno regalato dei momenti dimenticabili, e poi soprattutto durante il lockdown io potevo uscire e parlare alla gente, con gli sconosciuti. C'erano le portinaie che a un certo punto mi dicevano: hai rotto il cazzo, vai a lavorare, ti prego. Però è stato bellissimo, è stato bellissimo, ma sono tornato a fare questa cosa. In realtà è una serata che voleva andare a essere una serata di merda, allora adesso ci provo e proverò a fare un pezzo nuovo sugli anziani, proprio una cosa che ho scritto adesso, la testo con voi. No, di solito non si fa alle aperture, ma sti cazzi, io ci provo. È un pezzo dedicato al Molise, lo so, le battute sul Molise sono un po' scontate, ma generalmente non si offende nessuno. Allora, io ho questo piano, visto che c'è stata anche... Ho questa idea, è un piano politico, adesso che c'è stato il cambio di governo, che cazzo me ne frega se è? Io propongo, chi me lo prende. Secondo me è geniale. Io anzi, questo governo è una cosa un po' tosta, un po' fascia, quindi secondo me ci sta, e io obbligherei tutti i pensionati, età della pensione decidiamo che 65, facile per tutti, quando compi 65 anni vai in esilio in Molise, fisso. Tutti gli anziani buttati nel Molise, no, così. Allora, diamo un senso al Molise, che costruiamo delle strutture per anziani, che poi l'importante è iniziare a costruirle subito, e possiamo anche non finirle, se rimangono dei cantieri. Sono con te, sono. Allora, io lo so, è un po' dura dire tu adesso vai a vivere in Molise, possiamo essere anche subdoli. Io pensavo, prima hanno parlato di grattevinci, i vecchi sono golosi di grattevinci, quindi ci organizziamo, tutti i tabaccai daranno un grattevinci vincente a ogni persona che vedono sopra i 65 anni, loro grattano, vincono, e vincono una vacanza in Molise, ok? Poi non possono tornare indietro, ma loro vanno là contenti. Poi, allora, no, come poveri, bellissimo, tutti insieme, cioè è un esilio, guarda, tipo D'Annunziano, no? Ma invece che puttane e cocaina, Bianchino e Tombola, eh? Tutti quelli con reddito di cittadinanza li mandiamo a fare gli animatori là, eh? Che gli diamo un senso, lavorano, Poi ha dei vantaggi questa cosa, adesso io lo so, dite, ma perché decidi di fare questa cosa? Cioè, pensate, Milano deserta, vai in coda alle poste, no, non ci sono code alle poste, non ci sono più gli anziani, o code da qualsiasi parte, no, non ci sono più gli anziani, pensate quanti stabili signorili liberi a Milano, cioè il crollo degli affitti, eh? No? E poi sapete, perché sti cazzo di anziani hanno volato la Meloni, e mandiamoli a fare in culo. Robi Scheller, vero, scusate. Dov'è? Abbiamo un fuori programma. Perché Enrico Veronica ci ha detto che prima si è dimenticato di fare un minuto di pezzo, che è quello dove si capisce tutto. Va la mossa sorpresa per riaddrizzare la sera. Ah, scusa, pensavo di... Ah, allora esci che la rifacciamo. Come Mister ti chiami? Come ti chiamo? De Ricis? Veronica De Ricis. Complesso però. Va bene, vai, vai. Signori, una bella figa questa sera. Delicatissimo come sempre. Un applauso a Veronica De Ricis. Allora, visto che prima si parlava del lockdown, quello bello, quello del 2020, quello che è rimasto nel cuore di tutti noi. Allora... Questa è una cosa davvero breve, in realtà è un raccordo, se l'avessi detto prima avreste capito tutto il pezzo, davvero, però nel 2020, quando c'è stato il lockdown serio, le sparatorie negli Stati Uniti, le sparatorie negli Stati Uniti sono l'ultimo grande prodotto della cultura pop americana. Durante il lockdown, e io me li sono segnati tutti, le sparatorie le hanno fatte in un centro estetico, in un ufficio commerciale e in un supermercato. E lì ci hanno fatto capire che negli Stati Uniti la chiusura delle scuole, cioè, l'hanno patita molto più che da noi. Cioè, noi ci siamo lamentati dei banchi a rotelle, quei poveri disgraziati si sono ridotti a fare le sparatorie nei centri estetici e ci lamentiamo dei banchi a rotelle. Poi vabbè, qua si attaccava l'altro pezzo, non ve lo posso fare. Ciao raga! Aveva ragione Enrico. Si capisce Veronica tutto. De Ricis. De Ricis, Enrico. Allora... Prima di... Siamo più o meno... Abbiamo superato la metà. Sì, secondo me il programma sta andando alla grande. Come sta andando? Vedi, siamo partiti bene e lì li abbiamo fregati. Però inizio già a vedere dei posti vacanti. Adesso è una vacanti. Bella discesa, adesso sì, è una bella sì. Discesa. Adesso si va all'inferno. Completiamola per bene. Facciamo questa nostra cosa, questo sketch veloce. Facciamo lo sketch. Molto veloce. Lo sketch molto brutto. Copiato, neanche scritto copiato, da noi. Copiato, non è neanche nostro. Ok, contestualizzo un attimo. È dura. Contestualizzo un attimo. Dai, per favore. Una giovane e avvenente dottoressa entra nella stanza di un anziano paziente. Dottoressa, mi scusi, mi fa malissimo il fegato. Beve? Sì, però offro io. Possiamo andare ancora più in basso. C'è anche l'amico Pietro Belfiore qua in prima fila, si è girato e ha chiesto spiegazioni in merito a questo sketch. Ah, scusate, allora è peggio, ancora peggio. Scusa Pietro. Lo so, l'abbiamo fatta male, ma possiamo la rifacciamo fra 2 o 3 settimane che l'hanno dimenticata. Ma possiamo rifarla anche, secondo me, dopo il, dopo il prossimo comico. Vai! Una giovane Vai! Vai, vai, carica. Una giovane e avvenente dottoressa entra nella stanza di un anziano paziente. Scusi, dottoressa, mi fa molto male il fegato. Beve? Sì, grazie. No, hai sbagliato. Cioè, scusa, fammi capire. Ce la fanno rifare e noi sbagliamo. 2 battute a questo sketch, 2. Sai che ho dei problemi di memoria. Faccio tutto io, contestualizzo, faccio la dottoressa. Io trovo nuove chiavi. Dove tu vedi chiusure, io apro porte. Un fabbro, bravo. Andiamo avanti. Ma dobbiamo? Beh, sì, ne mancano 3 e magari facciamo qualcosa io e te, vediamo. Stasera. Ma no, neanche. Facciamo qualcosa anche io e te. Vediamo. Vabbè. Ma sì, ma quasi quasi. Sai che te staresti molto bene pelata. Ma perché? No, ragazzi, guardate bene il suo fidanzato, che bella pelata lucida che ha. Però che nesso è tra i due? 2 pelati meravigliosi sareste. Una coppia che farebbe... Sai che dare, ti ricordi quella sentenza, credo in Inghilterra, che dare del pelato a uno... In Inghilterra è reato. È reato. Sessualizzare i pelati è reato in Inghilterra. Quindi... È questo il mondo in cui vogliamo vivere? Viva i pelati! E viva il sesso con i pelati! Allora, te lo chiedo, come fanno sesso i pelati? Signore! Scusa, dove lo vuoi portare? Signore! Di quelle qui presenti! Signorina, vabbè, cioè nel senso, vedo un po' tutte su dettaglio. La media qual è? 45, 50? Tutte sposate. Allora, dicevo, quando vedete un pelato, è vero che il vostro primo desiderio sessuale è quello che lui vi scopi con la testa? Sento un sì. Chi è che ha detto sì? Io sento dei sì. Io sento dei sì sonori. Robin Scheller, sei a tanto così te dal diventare uno scopa ammiratrici di pelate. Ma che cazzo? Aspetta, stasera non lo so. Andiamo avanti, dai. Signori, chi non è pelato. Non è pelato, ho detto. Non penso. No, non l'hai visto, lo vedi. Noi abbiamo la quota belle persone. Sì, sì, è vero, serata, scusate. Brutte persone, tutte persone brutte dentro e fuori. Più però, dentro. Più dentro che fuori. Però abbiamo sempre una quota bella persona. Un bravo ragazzo, un bravo uomo, una brava ragazza. Esatto, succede che queste persone vengono a trovarci più volte e nel venirci a trovarci più volte dicevano ed era la prima Valeria, la prima nel venirci a trovare più volte diventano brutte persone anche loro. Lui era un bravo ragazzo, padre di famiglia, un signore simpatico, lo vedevate, gli stringevate la mano e adesso vi voltereste dall'altra parte. Adesso un cocainomane mignottaro. Fate un grosso applauso ad Alberto Vitale! No, ci tengo a dire per le ragazze che prima rispondevano sì alla domanda di Valerio, che io in realtà sono pelato, ho la parrucca sopra, quindi se qualcuno è interessato. E, scusate, faccio un attimo un... beh, intanto avrete notato come sono elegante, ma io compro i vestiti al mercato, quelli da 2 euro, anche se ho il sospetto siano usati. L'ultima volta ne ho preso uno, c'era ancora uno dentro. E volevo dire, scusate, una cosa fuori dal pezzo, una cosa che non c'entra, però Andrea ha un tatuaggio dei Monty Python su un braccio e volevo raccontare questo aneddoto che non c'entra col pezzo, ve lo faccio solo un attimo, perché c'è stato uno spettacolo di John Cleese, che è uno dei Monty Python, la scorsa estate, poco prima dell'estate. Io avevo preso il biglietto un anno prima, 50 euro di biglietto, e ho pensato, vabbè, è in inglese, ma capirò qualcosa, poi magari farà qualche gag simpatica. Non ho capito assolutamente niente, ma niente. Io sentivo... e tutti... Io non capivo un cazzo, è stato imbarazzante. Non potevo neanche andare via, perché avevo pagato 50 euro, e mi rugava molto, e continuavo a sentire... e tutti... e io assolutamente niente. Vabbè, niente, poi sono uscito, l'aneddoto è che ero lì fuori a chiacchierare con gli altri, vi è piaciuto lo spettacolo? Sì, io niente. Esce John Cleese dal teatro, ed è vero, insomma, io avevo pagato 50 euro il biglietto, ho detto, cacchio, almeno cercherò di sfruttarlo. Così mi sono avvicinato a lui, che è una persona molto gentile, ho detto, Mr. Cleese, lui, yes, e io, e lui, sorry, io, suca! Almeno ho sfruttato i 50 euro, mi sono preso questa bella soddisfazione. Scusate, è una cosa vera, ma... E niente, allora, beh, andiamo con i tempi moderni, allora va tutto bene, stiamo migliorando le varie cose, stiamo andando verso una guerra nucleare, questo magari è un po' seccante. E, ecco, nella guerra nucleare, se sapete, se scoppia una guerra nucleare, o come diremmo noi vecchi, guerra termonucleare globale, gli unici a sopravvivere, gli unici esseri viventi a sopravvivere sono gli scarafaggi. Gli scarafaggi riescono a sopravvivere a una guerra nucleare. Quindi presto avremo un mondo completamente popolato di esseri umani carbonizzati, sopra cui viaggiano miliardi di scarafaggi a cibarsi dei nostri cadaveri. Questo era il titolo del convegno che volevo fare alle scuole elementari di mia figlia, ma non è stato accettato. Ma per fortuna ci pensano gli americani, come sempre, e stanno risolvendo loro la questione, e stanno inventando una bomba atomica con sopra allegato una bomboletta di Bygone. Così sterminano tutto, perché gli americani sono così. Quando fanno una cosa bisogna farla fino in fondo, e questo bisogna riconoscerglielo. A proposito d'America, io tempo fa, l'anno scorso, sono stato in America, tra l'altro, ho fatto un tour organizzato. Era un tour molto organizzato, devo dire, un tour forse troppo organizzato. È venuto il tour operator in casa mia a farmi la valigia e mi aveva messo tra l'altro dei vestiti stretti, quindi ho stato malissimo tutta la vacanza. E ho fatto questo tour, però devo dire, l'America è molto costosa e quindi non ho fatto le città principali, Washington, New York, eccetera, ho fatto le città secondarie, quindi ho fatto Solomon, città sconosciute, Greenville, Smallville, tutte le robe piccole. Come se uno venisse in Italia e facesse un tour di Baggio, Rozzano, Gratosoglio, la stessa roba. Ecco, la differenza è che magari qua ti rapinano con la pistola, là vedi solo un puntino rosso qua sulla fronte e capisci che devi lentamente appoggiare un portafogli a terra. L'unica città grande che abbiamo visto è stata Atlanta, perché atterrava l'aereo. Atlanta c'è la sede della Coca-Cola. E fanno fare un giro, abbiamo fatto un tour nella fabbrica della Coca-Cola, che è stato molto bello, girano un po' così per la fabbrica, a un certo punto si sale una scaletta, e è bello perché ti ritrovi sopra una cisterna di Coca-Cola, una cisterna enorme, dopo vanno le bottigliette, c'è questa cisterna piena di bollicine, tutto, bellissimo, tu sei sopra così, e niente, in quel momento mi è venuta voglia di una Mentos, ho tirato fuori le Mentos, cazzo, per sfiga mi è caduto l'intero pacchetto di Mentos nella cisterna di Coca-Cola. Niente, non è successo niente, mi è toccato dar fuoco al locale. Okay. È stato divertente, di ritorno dall'America ho portato alle mie figlie come regalo il prodotto più esportato dall'America, un po' di democrazia, che loro hanno utilizzato per deporre il loro maestro che gli stava antipatico e mettere su lo zio compiacente. Quest'anno invece ho cambiato, quest'anno sono andato al mare, sono molto contento, il mare è estremamente bello, rilassante, l'eterno fluire, la caducità della vita. Ho scritto "Tamo sulla sabbia", e un'onda l'ha subito cancellato. Ho scritto "sono uno stronzo", il mare, cazzo, si è ritirato di 3 metri, cazzo, la scritta è rimasta lì 3 settimane. A volte penso che l'universo voglia dirmi qualcosa. E al mare, io dico la verità, non ci andavo molto volentieri, perché io ho un difetto fisico, è abbastanza evidente al mare, qua non si vede, io ho i piedi palmati, è strano, sono nato così, mi spiace, ho questi piedi palmati come i gabbiani. Adesso col passare del tempo mi sono un po' abituato, sono riuscito a vincere questa cosa, anzi sono contento perché mi fa nuotare più veloce. Devo solo resistere alla tentazione di cagare in testa le persone sdraiate sul lettino. Queste sono cose mie, delle volte ce la faccio. Al mare è bello, il mare si sta bene, io ci vado con le mie figlie. E al mare, devo dire questa cosa qua, è facile per i bambini fare amicizia. È una cosa molto bella. Mi ricordo un giorno c'erano dei bambini che stavano facendo dei castelli di sabbia. Si sono avvicinate le mie figlie, hanno detto possiamo fare un castello con voi? Loro, certo, certo, subito. Bello, subito. Hanno fatto questi castelli così brutti, facevano cagare, erano tutti storti, veramente facevano schifo, così glieli ho schiacciati, li ho buttati via, non ce la facevo, mi davano un gran fastidio. E questi bambini si sono messi a piangere, non ho più voluto giocare con le mie figlie. Al mare è difficile fare amicizia per i bambini, è abbastanza difficile. Al mare ho visto anche molti tatuaggi, devo dirlo. Ci sono persone che si tatuano il nome dei propri figli sul braccio, ed è utile quando vai a scuola a prendere il figlio. Scusi, sono venuto a prendere... Ah sì, Marco. Più difficile se il tatuaggio ce l'hai dietro su una scapola. Buongiorno, sono venuto a prendere... Vabbè, me ne dia uno qualunque, dai, va bene lo stesso. Che poi sui nomi, è ultimamente legato ai nomi, ci ho pensato alcune cose, che alcuni personaggi cattivi della storia hanno bruciato degli interi nomi, no? Adolf Hitler o Benito Mussolini, nessuno chiama più i propri figli Adolfo Benito, perché ci sono questi personaggi cattivi, magari ti richiamano la cattiveria, è giusta questa cosa qua. Io lo racconto sempre ai miei figli Pietro Pacciani Vitale e Totorina Vitale, che è una cosa che comunque loro devono sapere. Comunque ecco, al mare è successo anche alcuni fatti incresciosi, a volte succedono, alcuni fatti imbarazzanti. Ricordo una volta ero lì in acqua con la mia figlia, di fianco a noi c'era un bambino tedesco su un gonfiabile a forma di cigno, quei gonfiabili belli larghi, bianchi, no? Questo qua aveva un diametro di 3 metri, aveva queste ali di 2 metri e un collo lungo 5 metri con degli occhi che ci giravano e ti guardavano per dirti sei un poveraccio. Io ero di fianco a mia figlia, che aveva un salvagente della Lidl 2,99, era verde fluorescente da un lato e giallo dall'altro, e vedevo che, devo dire, mia figlia guardava questo cigno gonfiabile con una leggera invidia. Ed è brutto per un padre, no? E io ero lì in acqua con lo stuzzicadente in bocca, e io sì, giro sempre con lo stuzzicadente perché fa molto mafia e mi serve per avere i posti migliori in spiaggia. Quando fa molto caldo e quando la spiaggia è molto piena, io mi presento anche con un gessato, così sono più tranquillo. Comunque insomma mi trovo lì in mare, in acqua, con questo stuzzicadente, di fianco a me c'è questo bambino tedesco maledetto con questo gonfiabile bello gonfio, bello così, e io avevo mia figlia, ma non sono così cattivo. E così sono uscito dall'acqua, ho preso la macchina, sono andato in un lago lì vicino dove sapevo esserci un cigno, mi sono tuffato, ho lottato con il cigno maledetto, gli ho legato al becco con lo scotch della Lidl da 1,99 perché questi maledetti bastardi beccano, gli sono riuscito a beccarlo, gli ho legato le ali, l'ho buttato in un sacco, sono scappato di nascosto perché è reato rapire i cigni, sono andato al mare, ho liberato il cigno nel mare, ho messo mia figlia sopra e ho detto tiè divertiti, e ho visto il bambino tedesco che guardava con invidia. Quando mia figlia finalmente si è stancata di questo cigno, io ho liberato le ali del cigno e l'ho lasciato libero nel mare, nel suo ambiente, felice, lì che girava. Aveva ancora lo scotch da pacco nel becco perché mi ero dimenticato di toglierlo, ma l'ho visto volare con queste ali così lungo il mare, all'orizzonte, bellissimo, finché uno squalo non se l'è mangiato completamente. Dopodiché io con lo stuzzicadente ho bucato quel maledetto gonfiabile del bambino tedesco, perché se c'è una cosa che mi hanno insegnato gli americani è che le cose bisogna farle fino in fondo. Vabbè dai, ma se se ne vanno tutti chiudiamo qui. Ma dobbiamo andare avanti. Ma secondo me no. Te hai la faccia di uno che non vuole andare avanti. Guardami. Guardami negli occhi. Ascoltami, te sei veramente fortunato che lei non sappia picchiare. Perché io ho questa sensazione che voi due vi siete scambiati degli sguardi molto brutti, molto rancorosi. Ma chi? C'è una storia d'astio qua. Loro due hanno dei trascorsi brutti. Guardali, guarda come si guardano. Guarda. Vedi? Vedi? Quindi, signori, quanti vogliono qui un incontro? Si può puntare. Ed è andata, abbiamo all'angolo blu la signorina dai capelli neri. Rossi. Mori, sono daltonico io. Ma sì, ma sono tinti tanto. Sì, è pelata, è l'amica del pelato. Scusate, va bene. Basta. E samurai non lo annunciamo. Ma cosa stiamo dicendo? Non lo so. Ma ti rendi conto che abbiamo perso completamente il filo? Ma io stavo aspettando te che arrivassi. Abbiamo fatto tutto così bene fino adesso. Ma troppo bene. Ma cazzo, troppo ma che peccato bene. Però. Ma no. No, dici di no. Io farei un minuto di silenzio. Un minuto di silenzio. In memoria dei caduti. Vecchia stronza. Poverina, dai. No, vabbè. No, io scusa, mamma mia, la Madonna, manco detto la Fletcher, ho sentito no. Beh, Fletcher è entrata un po' nel cuore di tutti. Senti che bella tensione che abbiamo creato. Scusa Francesco, non volevamo crearti questa atmosfera prima di annunciarti. È stato un brutto scherzo del destino. Però sai che è anche intelligente. Sì, forse abbiamo toccato la vetta. Hai ragione. Va bene, signori, mancano gli ultimi due comici. E poi, che Dio ci ringrazi, abbiamo finito. Sì, la prima sera fino ad ora era andata bene, sta per andare malissimo. Ma io continuerei così. No, senti l'ondata di malessere. È presente quando senti il silenzio? Senti. È l'attesa. Questo è ancora peggio, lo sai? Che fai, no, non è vero, non c'è silenzio. E sei tu da silenzio. Sola. Silenzio. E tanto ti conosciamo. Loro non lo sanno, ma noi sì. Ma lo sai che questa serata se non portassimo gli amici? Chi è che conosce personalmente me lui qua stasera? Può alzare la mano? Gli altri si vergognano. Esatto. Come quelli che dicono, no, non ho votato la Meloni. Poi 25%. Cazzo, incredibile. Va bene, annunciamolo. Io ho votato la Meloni. Tu l'hai votato, lo so. Io rido tantissimo. Ah. A me sai che piace il mondo che va in malore. Sì, lo so. Sei un fautore di questa teoria. Fuoco, fiamme. Dicevamo. Cazzo, a tanto così eravamo arrivati. Due comici mancavano. Porco Giuda. Io te l'ho detto, chiudiamo la prima. Ma non è che possiamo chiuderla quando va bene. Hai ragione. Signore e signori, aspetta, Francesco! Questa è la quarta bella persona, devo dirlo. Sì, ragazzi, un bravissimo ragazzo, prima sera che viene qua, speriamo non l'ultima. Ma no. Forse è l'ultima che faremo noi in generale. Sì, esattamente. Abbiamo rubato quello che potevamo rubare. Francesco, dacci una mano tu a riportare questa serata al livello toccato fino a qualche minuto fa. Francesco Fanucchi! Buonasera ex Alge, fatemi sentire con un applauso! Come state? State bene? Vi siete divertiti finora? Sì, vabbè, facciamolo di nuovo. Vi siete divertiti? Sì! Bravissimi, sono falsi, bravi. Comunque io appunto mi chiamo Francesco e vengo da una piccola città toscana che è Lucca. E sì, i lucchesi sono famosi per essere tipo chiusi e diffidenti, ma non è vero, fatevi i cazzi vostri. Vengo da una piccola città e lì il giudizio sociale è fortissimo. Io me ne rendo conto quando esco per il mio paese, no? Tutte queste vecchiette che stanno lì alla finestra e mi guardano, mi fissano, cioè come se non avessero mai visto un uomo nudo, voglio dire, è abbastanza fastidiosa questa cosa. E poi a me quando mi fissa la gente mi prendono sempre le paranoie. Perché ho sempre paura di essere scambiato per qualcun altro, che è una roba assurda, perché tipo io con la barba vengo preso per uno oltre 30, senza barba vengo scambiato per uno sotto i 12, con i baffi Mario Kart, con gli occhiali Lucio Dalla, con il pizzetto sembro un po' un attore squallido, cioè ho la faccia di quegli attori che quando girano un porno sono gli unici a saperlo. Ho quella faccia lì quando porto il pizzetto. E a Lucca non c'è un cazzo da fare. Io lo dico, sono a Milano, adesso c'è un sacco di locali. A Lucca non c'è un cazzo, niente. L'unico locale che c'è è un ristorante stellato. E io sono stato una volta, ero invitato, anche perché voglio dire, raga, faccio il comico. Cioè il mio reddito calcolato in cene corrisponde a un cheeseburger fatto da un lavoratore sottopagato, quindi corrisponde a un cheeseburger fatto da me. Sono stato a questo ristorante stellato, era tutto lussuoso e non c'ero abituato, quindi mi davo un tono, no? E allungavo il collo. Sì, sì, perché tutti quelli che hanno il collo lungo, secondo me, sono ricchi. C'è questa idea. Parte un barbone che ho visto una volta per strada che aveva questo portamento signorile, ma lui deve essere decaduto, per forza. Poi è ovvio che se è un barbone è perché è decaduto, cioè io non credo che abbia fatto l'upgrade, abbia fatto lo scatto, no? Cazzo, era prima una busta di piscio, voglio dire, dai. Questa era cattiva. Questa entra tanto in Toscana, ma perché siamo dei pezzi di merda lì. Però anche a Milano ve la cavate. Comunque, ero a questo ristorante stellato, mi davo un tono, no? Tutto elegante, tutto a posto. Però mi sono tradito subito, perché quando siamo entrati in sala, tipo il cameriere ci ha offerto prosecco, no? E io ho avuto una reazione spropositata, proprio da disgraziato, cioè, oh, sì, sì, sì, sì. Cioè che se guardavi la scena, è vero, se guardavi la scena da fuori, no? E mettevi in muto, sembrava che il cameriere mi avesse detto, bocchino? Cioè era un imbarazzo, capito? Una reazione fuori di sé. Quindi io comunque mi sono messo al tavolo e lì ho avuto modo di scoprire il segreto degli ristoranti stellati. Voi sapete qual è? Ve lo dico, in che silenzio, cioè attenzione, mi prendete sul serio, sto scherzando, sto scherzando. Il segreto dei ristoranti stellati sono i camerieri che sussurrano il menù. Perché se te il menù lo sussurri, puoi dire qualunque cosa. Cioè, ti passa, io ho capito che ti passano qualunque cosa, capito? Cioè, allora, gli antipasti, abbiamo delle degustazioni di mare realizzate in estemporanea dal nostro chef, e poi se no abbiamo anche un branzino al limone servito su un vernissage di piselli, e per piselli intendiamo cazzi veri. Puoi dire qualunque cosa a uno stellato se sussurri. E poi un altro segreto che ho scoperto lì è la gentilezza dei camerieri. Cioè lì i camerieri sono, il mio cameriere era molto gentile, tanto gentile, era troppo, era fastidiosamente gentile, perché io non credo che esista una gentilezza del genere in natura, va bene? Non esiste. Per me, io ho cominciato a pensare, se sei gentile così in un contesto, significa che in un altro contesto sei malato, cattivissimo, capito? Allora ho cominciato a allucinare. Pensate davvero queste cazzate? Io ho cominciato a pensare che questo cameriere fosse stato segretamente pedofilo. E beh, poi segretamente, cioè specifica, è inutile, voglio dire. Se sei un pedofilo lo sei in segreto, insomma. Io sfido a trovare un pedofilo in pubblico. Dicevo, ieri su Brucomela c'è Articoletti. Ne ho scopato uno, biondo, occhi azzurri, un bimbo, sembrava Ryan Gosling prima che potesse ribellarsi. Io sfido di trovarlo in pubblico. Quindi io immaginavo che questo cameriere fosse stato pedofilo e che per ogni sorriso che faceva fra i tavoli un bambino veniva inculato. La mia teoria. Poi che è successo? Che sono andato in paranoia, perché ad un certo punto questo cameriere parlava con un collega, è scoppiato a ridere. Io ho pensato, oh Cristo, una gangbang. Comunque era abbastanza pesante questa situazione, perché io mi sentivo totalmente strano, totalmente fuori luogo, e non era piacevole, non era piacevole per niente. Poi non era piacevole perché mi sono ubriacato dopo tipo 2 minuti che ero lì, perché c'era il refill del vino, e io, se lo stereotipo del comico che beve, io non bevo un cazzo, e quando bevo mi ubriaco subito, perché non reggo l'alcol. Io quando bevo non divento neanche divertente, no, perché aiuterebbe, no, io quando bevo divento pensoso, filosofeggio, e mi cago addosso. Un Nietzsche con la diarrea. L'eterno ritorno, ma in bagno. Quindi io dopo 5 minuti che ero al ristorante stellato non mi ricordo un cazzo, perché ero ubriaco fradicio e dovevo andare a cagare perché non ne potevo più. Però mi vergognavo perché dico, ora mi alzo, vado a cagare in un ristorante. Cioè, un conto è farla da ciccio pasticcio, frazione di antraccoli, no? Che caghi in bagno, poi ti accorgi che sei in cucina e ti stupisci perché in effetti è troppo pulito per essere un bagno. Un conto è farla in un ristorante stellato, cioè sembra uno spregio, no? Però non ne potevo più. Allora ad un certo punto sono andato alla hall, no? Scusi, la toilette? E in quel momento mi è tipo uscita una voce nella testa che mi diceva: giustificati. No, no, ma è per pippare, eh. Allora, questa battuta più o meno funziona ovunque, ma a Milano quando spara di coca... Uno l'altra scorsa, era lunedì, l'ho fatta questa battuta, se mi siete faccio, ah, questa è buona, e non parlava della battuta. Comunque io sono andato in bagno, ero lì sulla tazza e ho cominciato a filosofare, no? Ho fatto delle grandi riflessioni intellettuali che sono tipiche di noi comici impegnati. Ho cominciato a pensare, ma perché l'odore di quello che entra deve cambiare quando esce? Cioè a livello evolutivo, io capisco la forma, quella sì, no? Pensavo perché, so, uno se no mangia un melone e poi muore, non lo so, non lo so, ma l'odore perché cambia, no? A livello evolutivo, cioè esce, tu mangi un piatto di lasagne, mangi, esce, e l'odore è lo stesso, sarebbe fantastico, no? Torni a casa, che odorino, ho cucinato, no, ho digerito. Belli, anche nei ristoranti stellati, no? I posti vicino ai bagni sarebbero più ricercati. Te ti siedi... La gente dietro entra, esce, la porta si apre, si chiude, arriva la zaffata. Amore, qua fanno delle fantastiche lasagne. È bellissima una roba del genere. Poi sono tornato, ho mangiato quello che dovevo mangiare e ho mangiato tipo un piatto assurdo che era un gamberetto steso. Guardate, io non avevo mai visto un gamberetto steso. Era, cioè, proprio sdraiato sul piatto. Io l'ho sempre visti, sono curvi i gamberetti, no? Ah, io mi sono chiesto, qua i casi sono due: o io ho sempre mangiato gamberetti con la cifosi, o questo l'hanno ucciso mentre faceva stretching, una roba del genere. Poi ho mangiato anche una calamarata, tipo tutta sofisticata, una porzione però molto piccola, e non mi ha entusiasmato, l'ho mangiata ma senza entusiasmo, perché mi rendo conto che io di fondo sono un provinciale, e quindi il mio riferimento in cucina è mia nonna, che qualunque piatto le servi, psst, poco olio, cazzo nonna, il dolce. No, senso. Questa non è entrata. No, vabbè, mia nonna, che se tipo le servi un piatto più piccolo di un ettaro, vengono i flash di guerra. Dice, ah, i tedeschi! Evviva! No, vabbè. Praticamente... Cioè, sono un provinciale, lo vedo anche dai video che guardo su Instagram, i video di cucina. Cioè, io guardo i video di Giorgione dell'Orto in Cucina. Avete presente che Giorgione è uno che cucina piatti tradizionali e lo vedi questo uomo gigantesco, poi ignorante, che quando di cucina gode, ma gode fisicamente, capito? Li vedo col guanciale, guarda come sfrigola questa magara. E io lo guardo e godo anch'io, capito? Perché a me il cibo tradizionale mi fa venire duro, cioè mi arrapa, mentre il piatto stellato, no, il piatto stellato non mi arrapa. Se fossi un cameriere direi, meglio un bambino. Grazie mille. Grazie mille, Exalge. Francesco Fanucchi! Allora, Faddi, è evidente che abbiamo sbagliato qualcosa nella scelta dei comici, perché noi... ce la stiamo mettendo tutta per affossare la serata, però sti bastardi la riportano sempre su. Sì, perché noi scegliamo dei cavalli di razza. Porca troia. Che bella, non va bene, bel commento. Non va bene. Adesso la possiamo riportare però molto. Sì, adesso giù. C'è il momento molto in cui giù. Ci giochiamo tutto. Vai! Il vero senso della serata, che appunto è andata bene, è andata male, è andata come è andata, ma tutta la riuscita o meno di questa serata, di questa prima serata, aspetta, della seconda stagione. Dobbiamo portare un po' più giù la serata. E dici di giù. Che necessita dovremmo ancora. Fare un altro sketch brutto. Ah cazzo, è vero, facciamo un altro sketch brutto. Però conviene che io venga di lì, no? Io li vedo già che loro ci odiano quando saliamo sul pacco. Sì. Se si potesse fare questa serata senza me e te sarebbe una figata. Ma bellissimo. Ma se volete fra due giovedì io e lui non veniamo, vengono i comici autogestiti. Ma secondo me è l'Exalge che ci chiede di non venire. Se continuiamo così, sì. Facciamo lo sketch. Siete tutti pronti? Sketch. Che col baffo quanto mi stai sul cazzo. Ti odio. Merda. Guarda grazie. Com'è signorile lui, che ti guarda come si guarda un mitomane e dice sì, sì. Fa il superiore, ma... Forse perché è superiore? Può essere. Esatto. Bene, facciamo lo sketch, sei pronto? Ciao, vai, no. Ti ricordi cosa devi dire? Ma più o meno questo non è bellissimo, quello di prima era più bello. Questo, quello di prima andiamo, avevamo già provato una volta, no? Questo invece, quello di adesso, è proprio inedito. Fresco, questo fresco. È scritto da noi. Da te. Per farvi capire il livello. Allora, un uomo entra in un bar. Ciao. No, ti sei già dimenticato. È tua la battuta! Ah, cazzo, scusa. Bastardo! Rifacciamo. No, no, non fate applausi di pietà. Fateli alla fine quando... Ma sai che gli applausi di pietà ci stanno bene in questa sera? Compassione. Di schifo, di disprezzo. Esatto. Un uomo... Di umana compassione. Basta! Un uomo entra in un bar e ordina un caffè. Lo vuole fatto in maniera normale o in maniera particolare? E come sarebbe la maniera particolare? Così. Senti, una persona... T'ho detto che questo no, è andato no. Bene. Questo è andato bene. E adesso che abbiamo buttato giù la serata così, adesso abbiamo la comica più brava che io abbia mai visto da quando mi esibisco. Quanti anni hai che ti esibisci? 3. Ma sapete di contro che io sono contro le donne che fanno comicità sul palco, ma su di lei nemmeno io ho potuto dire di no. Noi l'abbiamo messa alla fine perché lei farà una chiusura bomba da cui dipenderà l'esito della serata. Ci giochiamo tutto! Se lei farà cagare la serata sarà stata un flop. Chi vuole, chi vuole scommettere adesso? Accettiamo scommesse prima. Chi punta 10 euro sul fatto che ci farà chi è che ha le palle? Tutti da ridere? Tirate fuori il denaro! Signore e signori, andate Francesca male. Pugnisi! Ale! Ma uffa! Ma uffa! Uffa! Ma io, se me lo dicevate, facevo il repertorio. Ho scritto due cose qua, tre pagine, tutto nuovo, devo leggere. Io non posso chiudere io, fate chiudere a qualcun altro. Non ci sta nessuna, cioè, capite? Devo chiudere io, va bene? Ok. Va bene, allora, di solito, infatti, quando si chiude... diciamo in salita, invece voi vi beccate un pippone di un quarto d'ora scritto e letto, vedi che culo che tenete stasera, ecco che cade pure, aspetta un momento, ma qualcuno che mi regge questa cosa mentre sistema, aspetta, no. Non è molto chic questa cosa, aspetta un momento, tengo finché tiene. Allora, buonasera, io leggerò perché ho scritto un pezzo nuovo. Allora, avete presente il tandem? Cos'è il tacco? Ok, è brutto. Quanto è brutto il tandem? È brutto. Il tandem è brutto perché ti devi mettere sempre d'accordo. Il tandem è brutto perché gira a destra, gira a sinistra, se non hai voglia di pedalare devi pedalare per forza, pure tu, se no quell'altro si incazza, non puoi scegliere, capito? Se quello va forte devi andare forte pure tu, se va piano devi andare piano pure tu, perché magari ti fa pure fare tardi a casa. E soprattutto questa cosa è le due manubri. È squilibrata, non... Il secondo, quello dietro, lo sfigato per intenderci, non può sterzare da una parte se quello ha deciso di andare dall'altra, perché altrimenti cadete. Cosa sta a fa? Invece, quanto è bello quando ognuno esce con la sua bici, o no? Mazzarè, a te ti piace andare in bici? Ecco. Quanto è bello quando ognuno esce con la sua bici? È bello perché quando ognuno esce con la sua bici, quando vai con un amico, vi fate quel giro che è andato assieme, poi lui si stacca, si fa un sentiero, tu ti fermi che fai uno spuntino, no? E quello va sullo sterrato, sopra i ciottoli, si accappotta lui solo, ma te che te ne fotto, tanto tu stavi sul marciapiede, hai capito? È bello questa. E alla fine della passeggiata vi ritrovate insieme, felici, armoniosi nella piazzola. Ecco, questa è, diciamo, la stessa differenza che c'è fra dormire in coppia e dormire da soli. Oh no? È questa roba qua, è quella roba, è così. Allora, chi di voi condivide il letto matrimoniale tutte le sere? In tre poi veramente si diventa una cosa veramente, dico, oltre il pezzo, non c'è neanche scritto nel pezzo questa cosa, perché era oltre la mia immaginazione. Chi di voi divide il letto tutte le sere con qualcuno? È una cosa proprio, è una cosa, ok. Anche io, lo faccio, non lo ammetto che lo faccio anch'io. Allora, perché lo faccia? Perché? No, rispondo, non vi baciate, per favore, rispondetemi alla domanda. Perché? Non mi dire per amore, perché è una cosa che non regge questo fatto. Non regge. È una convenzione sociale poggiata sulla fantascienza. Non nel dormire insieme, proprio l'amore, secondo me. Comunque, vabbè. Avete mai visto, che ne so, in natura un qualunque animale evoluto condividere il posto dove dorme ogni singola notte? Non lo so. Prendiamo un animale, un che mi piace a me assai, per esempio il gorilla. A me piace moltissimo il gorilla di montagna. L'avete presente il gorilla di montagna? Certo. Allora, per chi insomma sono quegli animaloni tutti belli pelosi, quelli là grossi, quelli tutti paffuti, che hanno quelle chiome frisée, che sembrano tutti quanti pettinati da Federico Fashion Style fatto a coca, ecco, quelli là, ok. Ogni sera ognuno di questi si prepara il suo giaciglio, pure se ha limonato tutta la giornata col suo gorilla amico, dicono la sera, ciao, buonanotte, mi ritiro, hai capito cosa fa il gorilla? Ah, cioè al momento giusto se ne va, cioè, e ognuno si corica per i fatti suoi, il gorilla con il quale condividiamo il 90% del DNA. Dico, la vogliamo ascoltare questa voce della natura? Allora, il letto matrimoniale è la più grande perversione che la nostra società abbia prodotto dopo il matrimonio. E non è un caso che le due cose siano collegate, peraltro. Ecco. Non è un caso che le due... soprattutto, io penso che sia stato masochismo. Insomma, esistono modi di morire anche più veloci, parliamoci chiaro. Ci sono delle forme di tortura più immediate. Per esempio, questo mi ricorda un po' quella tortura della goccia. Ce l'avete presente? Quella cosa cinese? Sì, perché vuoi abbreviare che te ne vuoi andare a casa? No, perché è quel sì un po' sbrigativo, che non mi piace tanto, sembra partecipativo ma in realtà è sottrattivo. Mo te lo chiavo un microfono in testa. Ah, avanti. Allora, no, mo nessuno risponde più per paura, no, è uno scherzo, io faccio questa cosa un po' gomorra, ma in realtà sono buona. Allora, stavo dicendo che mi ha fatto sperdere il filo. Allora, quella cosa della goccia che... che dice, vabbè, all'inizio uno dice, vabbè, mi sto rinfrescando un po', ci sta. Poi dopo un po' dice, vabbè, uno shampoo pure questa sera, pure ci stava, ok. Dopo dice, due ore che questa cosa, che no, che quello ti russa nel letto al fianco, a cadenza regolare, dico, l'unica cosa che desideri è il colpo di grazia. Hai capito? Eccoci qua. Nell'Ottocento, guarda come vado indietro, mi spiace per voi, se l'abbiamo lunga stasera. Nell'Ottocento le coppie dormivano separate. Allora qualcuno dice, perché dormivano separate? Perché dice, beh, forse per pudore cattolico, perché erano altri tempi, si vergognavano, moralismo, tenevano vergogna della servitù, ma quando mai? Non se ne fottevano proprio. Loro avevano capito che l'unico modo per durare a lungo era dormire separati. Non era moralismo, era buonsenso. Avevano buonsenso in molte cose. Per esempio, perché nell'Ottocento andavano vestiti belli in casa, no? Col corpetto, tutti belli così, tutti qua. Tutto il matrimonio, si faceva tutto il matrimonio così. A colazione, la mattina, tutti belli col corpetto. Le stecche di balena, questi fatti qua. Perché? Perché durante tutto il tempo della relazione continuavano a darsi del lei. Per il distacco. È il distacco che è fondamentale. Io per esempio al mio dentista davo del lei prima, poi ci ho fatto sesso, ho continuato a dargli del lei anche un sacco di soldi, no? Comunque non sapete, non avete idea di quanto intimità passasse attraverso questo lei, proprio una cosa, sesso, otturazioni e distacco, una cosa bellissima. Dico, allora dico, perché non facciamo come nell'Ottocento? Perché non ci teniamo il buono di questa vecchia borghesia? Sapete che cosa ci ha rovinato a noi? Io? Il Novecento e la psicanalisi, i cui effetti ce li ritroviamo ancora adesso nel 2020, perché tutti quanti vogliono conoscere meglio se stessi. Perché? Per conoscere meglio gli altri. Ma perché? Perché io ho finalmente scoperto di aver avuto un trauma infantile. E adesso come stai? Male, perché ho appena scoperto di aver avuto un trauma infantile. Ecco, ma che te ne frega a te di conoscere i tuoi traumi infantili? Dico, ma finalmente io ho potuto rimuovere il blocco. Ma quello, il blocco ci stava apposta. Il blocco della testa è un poco come il blocco del telefono. Se non ci sta la mente, capito? Quella va a cazzo di cane. Cioè, come il telefono che ti tiene in tasca, se non ci metti il blocco, quello, partono le chiamate estere, i WhatsApp, i pagamenti a Satispay. Il blocco ci vuole il distacco. Io, per esempio, voglio andare a dormire la sera e pensare, ma che cazzo è questo che mi dorme nell'altra stanza? Cioè, voglio immaginarmelo, capito? Io voglio sentire il mistero dentro di me, io voglio ribollire di passione, di curiosità. Invece la notte io mi giro e vedo il mio compagno con una mano sul pacco, la faccia che mi sbava sul cuscino e non mi chiedo che cosa stia facendo, perché è evidente, ma mi chiedo che cosa io sto facendo. Qua, vicino a lui. Avanti, porca. Ma sei tu che acchiappavi le mosche prima? Ma se questo è collega di quell'altro, vedi? Guarda, è una cosa incredibile, mi sono fatta acchiappare mosche durante i pezzi, è una cosa incredibile. Allora, anch'io? Allora, io gliel'ho detto, gliel'ho detto al mio compagno, guarda, io non voglio figli, oppure li adottiamo. Dice, perché? Per il distacco. Allora, innanzitutto io non voglio un figlio che mi assomigli, proprio veramente, una cosa che mi darebbe una cosa. Io voglio un figlio che lo guardo e gli dico, mamma mia, ma questo è uguale a me proprio. E invece, se lo guardo che l'ho adottato, dico, mamma mia, ma che padre che ci hai avuto, mamma mia, ma che madre che ci hai avuto, capito? Invece lo tratto con distacco e non ho già perso filo, aspettate, mi consolo. E anche se magari è un poco coglione, penso che non è colpa mia, hai capito? Perché se io l'ho adottato non mi sento responsabile, e se l'ho preso pure un po' grandicello non mi sento responsabile nemmeno del suo, come dire, dei suoi traumi infantili. Quindi adottate un bambino, deresponsabilizzatevi. Ecco, questa era la sintesi di questa cosa. Allora, vabbè, io sì, diciamo che io veramente vorrei adottare, meglio se nero, così il distacco è maggiore, certo. E quando lui andrà a scuola e subirà atti di razzismo e di bullismo, perché questo succederà, io gli dirò, guarda, non ti ho fatto così, guarda, non ti ho fatto io così, guarda, vedi, bianco cadavere, non è colpa mia, mi dispiace figlio mio, vai, ecco, ecco. Non è colpa mia, l'ho fatto io. Scusami, guarda qua, è che bello così. Sono pure anemica, non è proprio possibile che ti ho fatto io. Allora, quando invece i figli sono i tuoi, ti scatta, ecco, Robin, dimmi se non è così, ti scatta quel senso di vicinanza, no? Una specie di patetismo, non so come chiamarlo, una cosa proprio, una cosa tipo sentimentalismo, va? Non lo so, non l'ho provato, però prendi una specie di... E poi tutte le paure ti vengono, si ingigantiscono, oh mio Dio, si è sbucciato il ginocchio, c'ha la colica, gli fa male il pancino, eh? È vero. E invece loro, vedrai Robin, i figli, di contro... Non se ne fottono proprio, non vi calcolano, cioè loro non vi stanno proprio a sentire. Per esempio, vi siete mai chiesti perché quando tornate a casa, che avete, non lo so, lasciato vostro figlio alla babysitter moldava che d'italiano conosce due parole in croce, riesce a ottenere le cose da lui che voi non siete riusciti a ottenere in un anno, i compiti fatti, la casa pulita, perché? Perché non è suo e lo tratta con distacco. Questa è la verità. Si è sbucciato il ginocchio, dai, forza, che vuoi che sia, ginocchio sbucciato, disinfettare, mettiamo cerotto, non rompere coglioni, ecco, così si fa, vedi, ecco, distacco. Così alla fine tuo figlio, invece di essere tuo figlio, diciamo che è più come un amico. Conosciamo tutti i rapporti con gli amici, no? È un po' come la cosa del tandem di prima. Perché le amicizie durano così a lungo? Perché in realtà non si condivide niente fino in fondo, questa è la verità. Diciamocelo, non si divide la casa, non si divide il letto, fare la cacca assieme diventa quasi un diversivo comico, non un obbligo, diciamo, coniugale, ecco. Ecco, sai tutto di lui ma non proprio tutto, e comunque quel tutto non ti viene a rompere i coglioni e le ovaie tutti i giorni, il suo tutto a un certo punto se lo porta a casa sua e poi magari dopo cena vi rivedete al cinema. Fra i bisogni primari, il sesso può essere di gruppo, il cibo pure, ma il sesso è single. Non puoi amare qualcuno per sempre che ti ruba le coperte, ti russa e ti scorreggia a fianco tutte le notti per 30 anni, è antiscientifico. E se non ci credete, chiedete ai gorilla. Grazie. Grazie. Lo tengo il pezzo. Grazie, guardi. Francesca Puglisi. E signori, siamo giunti alla fine di questa orrendissima serata. Fadi, vuoi aggiungere qualcosa? Allora, i casi sono due: o ci salutiamo tutti e va benissimo così. No, sketch non ne facciamo più, ragazzi. Sketch e... Sono tre le persone che hanno detto no. No, esatto. No, davvero, o ce ne andiamo tutti a casa qua fuori. Ah, tra l'altro, un attimo, aspetta, signorina. Dopo la mezzanotte consigliano di non fare casino fuori. Cioè, hai fatto caso che a inizio serata erano in 75 e adesso sono in 34? Vabbè, ma questo ci sta perché non facendo pausa a un certo punto uno si rompe anche il cazzo. Io sono molto fiero. Anch'io. Quindi la affossiamo, o ce ne andiamo tutti o facciamo 5 minuti io e lui, diciamo due cose e poi ce ne andiamo tutti. Sai che non li vuole nessuno 5 minuti? No, no, ma io infatti io voglio un sondaggio popolare, non voglio pietismo. Fai ad alzate le mani, così a far casino vince chi fa più casino. Chi vuole che la finiamo qua? Un signore, lei è un eroe, lei è un bravo, dice a questo punto uno va. Non a caso la persona più saggia presente. E noi giovani che ci ostiniamo a pensare di sapere, giovane, 40 anni, di sapere tutto. Fai 5 minuti te? Ma falli te, ma falli te, ma falli te, guarda, ma falli te. Mi offendo. Io li faccio, ma li fai anche tu. Va bene, dai. Però ognuno fa il suo pezzo. No, io faccio il tuo, tu fai il mio. Ascolta, giochiamocela pari e dispari. Per cosa? Per chi inizia? Chi vince? Qual è la cosa peggiore, iniziare o finire? Secondo me a questo punto, secondo me è peggiore finire. Allora, dai, però veloce, perché già non è che il signore ha tanta pazienza. Faccio io, fai tu? Dispari? Vai. 1, 2, 3, fuori. No, aspetta, era una domanda. No, era una domanda. Dai, vai. 1, 2, 3. 0. Tu hai detto pari, dispari, quindi in teoria tocca a me adesso e tu vai dopo, che è peggio. Grazie, mi passi il bicchiere? C'è un bicchiere? Ce l'ho lì, per piacere. Grazie di questo, ma saremo brevissimissimissimi. Anche l'acqua della Puglisi. No, no, il bicchiere non è quello lì, è quello pieno, per piacere. Sì, esatto, io volevo la mia roba da bere. È l'acqua della Ferragni. Bene, grazie, non l'ho fatto io. No, ma in realtà non è che avessi molte cose da dire, anche perché è la prima sera della stagione, quindi non abbiamo, almeno io ho preparato niente e magari... dirò due robe di repertorio, anche se è tristezza dire repertorio. Comunque volevo raccontarvi due cose su un viaggio che ho fatto quest'estate, che sono stato un mese in Colombia. E qual è la prima cosa che vi viene in mente se dico Colombia? Bamba, cocaina, ovviamente. Quindi domanda, piccolo sondaggio: secondo voi in 25 giorni quante volte me l'hanno offerta? Due volte a Cartagena in due giorni, tre volte a Medellin in tre giorni, quindi cinque volte in cinque giorni. Pensavo di più. Secondo me al parco di Rogoredo in cinque ore tiriamo su più roba. La Colombia è un paese molto bello, un paese molto povero, e infatti una delle cose che mi ha colpito è che un giorno eravamo sempre a Cartagena, in un'agenzia turistica, io e la mia ragazza stavamo organizzando un tour e stavamo sfruttando il wifi dell'agenzia, perché noi non avevamo ovviamente internet. Ad un certo punto io esco per andare a comprare dell'acqua in un negozio lì vicino. Faccio 3-4 vie, destra, sinistra, dritto, giro. Ad un certo punto vedo un senza tetto che dorme per terra, giro a sinistra e trovo il negozio. Prendo l'acqua, riesco, sbaglio strada e mi perdo. Non ho internet, non posso chiedere ai passanti perché non ricordo il nome dell'agenzia e quindi inizio ad andare un po' a caso, destra, sinistra, e ad un certo punto, da lontano, rivedo il tizio che dorme per terra e lì penso, ho svoltato. Ma non perché io abbia chiesto indicazioni al tizio che dormiva per terra, perché mi ricordavo che prima all'andata dal tizio che dormiva per terra bastava girare a sinistra e poi ero arrivato. Quindi la Colombia è un grande paese, perché credo sia uno dei pochi paesi al mondo dove un senza tetto funziona meglio di un cartello stradale. Senza tetto, sinistra, sei arrivato. Cambiamo argomento perché devo ancora scrivere bene le cose sulla vacanza. Vi parlo un po' di me, delle mie passioni e poi chiudo. E vabbè, vi parlo un po' di me. E la cosa che mi piace dei pedofili sembra finire strana la frase, ma ha un senso. La cosa che mi piace dei pedofili è che se voi per un attimo riuscite ad astrarvi, a dimenticare il fatto che si scoprono i bambini, che non è facile, vi renderete conto che i pedofili sono persone mediamente con un sacco di qualità. Se voi guardate qualche documentario, leggete qualche libro sui pedofili, anche gli stupratori di solito, ma più i pedofili, sono persone che per fare i pedofili, quindi per fare questa cosa molto segreta, vista male da tutta la società, devono agire in una maniera, come dire, molto strutturata, quindi tendenzialmente sono persone precise, sono persone metodiche, sono persone puntuali, pagano le tasse, pagano le multe. I pedofili sono i vicini, i casi ideali, se non hai figli, perché comunque loro non fanno casino alle 3 di notte con la casa piena di gente, non vogliono controlli della polizia. Il pedofilo medio alle 8 di sera è a letto, a casa sua, nella sua stanzetta, tutto buio, sul dark web, a adescare qualche bambino. Quindi se non hai figli, il pedofilo è il vicino di casa ideale. Però se ci pensate bene, questo meccanismo, il pedofilo, dove abbiamo appena detto che tu hai tanti pregi, tantissimi, è un brutto difetto del cazzo, fa sì che tu venga visto male dalla gente, cioè la gente ti vede proprio male. Però se ci pensate è un meccanismo un po' subdolo, un po' truffaldino, perché tanti pregi, un difetto, vedono solo il difetto. Facciamo quantomeno che valga anche al contrario, cioè se tu hai tanti difetti ma un grande pregio, vieni valutato bene. Faccio un esempio: Hitler, uomo di merda, ma signori, ma che caffè che fa? Questa è una cagata che però mi fa ridere. Vabbè, vado a chiudere con altre due robe. Sono fidanzato da 7 anni con una ragazza maggiorenne. Ed è una ragazza un po' particolare perché è molto colta, molto spirituale, le piace viaggiare, le piace leggere, quindi è molto saggia, ha tutta una serie di qualità progressiste di sinistra, se vogliamo chiamarle così, che però esprime in un modo un po' forte, un po' di destra, no? Avete presente la dittatura illuminata? La mia fidanzata è la dittatura illuminata e oltre ad avere tutte queste qualità mi fa una testa così perché è molto femminista e cerca di farmi capire, visto che sono un po' il maschio medio su certe cose, appunto tutte le disparità tra uomo e donna, disparità da un punto di vista sociale, lavorativo, economico e quant'altro. Vedo che le donne qua scuotono la testa, sanno di cosa stiamo parlando, magari invece i maschi sono un pochino restino. Quindi per i maschi, cito giusto due dati che ho sentito l'altra sera, non mi ricordo se era di martedì, da Floris, per farvi capire il contesto. Cioè pensate che in Italia, anche nel 2022, in un rapporto di coppia, 7 donne su 10 rompono il cazzo. Fate se volete che bevo. E poi ho finito. Le donne non hanno riso, il che conferma la mia teoria. E comunque, ho fatto questa battuta un bel po' di tempo fa in un locale a Milano, finisce lo spettacolo, arrivano 3 ragazzi sui 20 anni, non proprio più svegli, e mi dicono: no, bravo, cazzo, ci sei piaciuto tantissimo, soprattutto la parte sulle donne, perché, e cito testualmente le parole, sono le stesse cose che diciamo noi. Che guardi ragazzi, faccio un passo in... così, vabbè. Guardi ragazzi, hai ragione, sto parlando male di voi, quindi tu puoi fare quello che vuoi. Guardi ragazzi, faccio un passo indietro e dico: raga, voi non dovete prendermi, cioè, proprio sul serio. Io non penso esattamente quello che dico, io non penso che 7 donne su 10 rompono il cazzo, 10 donne su 10 rompono il cazzo. E con questa io mi sono preso la mia ultima risata. Valerio Rò! Volevo dire un'altra roba, ma andiamo lunghi. Valerio! Ti ringrazio. Valerio! Vabbè, allora intanto... ci sei? Tocca a te! Signori e signori, la fine di questa bella serata con Valerio Airo! Andiamo a fare denti! Allora, ragazzi... Oh, Dio, non va il microfono. Allora, ragazzi... io ci tengo... perché siamo andati in basso, possiamo andare oltre... ci tengo a essere qui sul palco per voi alla fine. In una natura molto poco loquace, ma molto più visiva. Benissimo. principio. Ti ammazzo la famiglia io. Hai rovinato un momento bellissimo. Quanto sei disgustata da 1 a 10? Anche le signore mentono. Io vorrei adesso chiudere, in realtà, visto che è qui presente, dedicando il pezzo alla mia ragazza, che non indicherò perché è una ragazza molto, molto timida e quindi ci tengo a far sì che lei non sia a disagio. Ciao Martina, come stai? E vorrei raccontarvi la storia del primo appuntamento che ho fatto con lei. Praticamente dovevamo vederci al Parco Sempione e io, prima di vederla, avevo già questa sensazione nello stomaco che non erano le farfalle ma le kebab che mi ero mangiato a pranzo. Ci vediamo, ci facciamo un paio di birre e questa sensazione che ho nello stomaco si intensifica, al che mi dico: vado a fare un pisciatino tattico per togliere questa pressione. Mi dirigo verso il cesso chimico che puzza da 15 km di distanza e lei, dall'alto della sua pelliccia in montone, mi guarda e mi fa: ma veramente vuoi entrare lì dentro? No, perché io abito qua vicino, quindi forse è meglio se vieni a casa mia. Io la guardo facendo così. E lei mi fa: no, forse non è il caso. Non è bello invitare a casa la ragazza al primo appuntamento, anche io le rispondo: per favore, mi sto cagando addosso. Tecnica di rimorchio numero uno, anche se sei già sposato, per quando divorzierai. Come farsi invitare a casa al primo appuntamento? Cagandoti addosso. Ora arriviamo a casa, io corro subito verso il cesso, glielo inondo di merda, poi esco e le dico: oh, ma il tuo cesso ha problemi di scarico? E mi fa: no, il mio bagno non ha mai avuto problemi. Adesso sì. Ci mettiamo un po' a parlare. Lei mi dice: sai, io ho 27 anni. Io gli dico: ah, da Instagram sembrava 32. Lei si mette a piangere. Tecnica di rimorchio numero 2. Creare empatia. A una certa lei, mentre stiamo parlando, mi spiega il motivo per cui siamo lì. Mi dice: guarda, a me è capitato di vedere un tuo video su YouTube e te devi sapere che io ho questo grosso fetish per Guccini. Quindi, come ho sentito il suono della tua voce, ho pensato: minchia, questo se glielo succhio al buio è come succhiarlo a Guccini. Che vi dirò, mai e poi mai nella mia vita avrei pensato che il suono della mia voce mi avrebbe fatto guadagnare un pompino. Fatto sta che l'unica cosa che ho potuto risponderle è stata: ma se io avessi previsto tutto questo. Adesso però ci tengo a dire una cosa. Io, no, adesso salgo sul palco, dico: non voglio le donne sul palco. È un personaggio, ovviamente. Cioè, io in realtà ho un grandissimo rispetto per le donne. Cioè, io ho talmente tanto rispetto per le donne che ogni volta che ho l'onore e il privilegio di finire a letto con una ragazza, io mi sento sempre molto in colpa se poi non lascio 100 euro sul comodino. Ma perché se li merita, cioè una ragazza che viene a letto con me se li merita, anche perché io in fase di corteggiamento faccio lo sborone, faccio: ti prendo, ti ribalto, ti sganghero tutta. Poi arriva il momento dei fatti, io do i miei 2-3 colpi, vengo e dico: boh, è stato bello, grazie. Ma non mi pulisci la schiena? No. Se li merita 100 euro. Però vi dico, sono molto contento, siamo ripartiti con queste serate. E in generale sono contento che si possa fare serate dopo il lockdown, zona arancione, zona rossa. Okay? Ogni serata porta un ricordo. Però le mie serate preferite personalmente sono le serate sbagliate. Ora, qual è una serata sbagliata? La serata sbagliata è quella in cui ti esibisce l'Exalge? No. In realtà la serata sbagliata è quando tu hai un repertorio in cui parli di stupri, chiedi il culo alle tue amiche, inneggi a Hitler e ti devi esibire alla festa del santo patrono di Corte Maggiore, provincia di Piacenza. Come ci sono finito alla festa del santo patrono di Corte Maggiore, provincia di Piacenza? Praticamente un pomeriggio mi arriva una chiamata da un numero che non conosco, mi fanno rispondo, mi fanno: ciao, noi non ci conosciamo ma io ho sentito parlare bene di te, mi hanno detto che sei bravo a dire le cazzate. In che senso? Ah sì, fai il comico, dici le cazzate, no? Sì, più o meno. Mi dica, quanto vuoi per 5 minuti di cazzate alla festa del santo patrono di Corte Maggiore? Solo 5 minuti? Sì, 5 minuti perché poi c'è la band. Quanto vuoi? 500! Mi spiace, 500 non ci posso arrivare. Al massimo posso darti 50 euro un piatto di tortelli. Va bene, andata, ci sto. Arrivo alla festa del santo patrono di Corte Maggiore e mi trovo nella situazione peggiore possibile per fare qualsiasi tipo di spettacolo, perché il palco è quello alto, grande, largo da band, sono nella piazza principale di Corte Maggiore. Alla destra del palco c'è un gioco bimbi, quindi sotto al palco allegri bambini che ridono, si divertono e fanno scherzi. E la prima delle lunghe panche in legno classiche da festa di paese è ad almeno 10 metri di distanza. Seduti sulle panche in legno, anziani signori che mangiano i tortelli. Alzando lo sguardo, dritto di fronte a me, la Basilica di Corte Maggiore, a ricordarmi che come sempre, ma in particolare quella sera, Gesù mi osserva. Ora, la serata viene introdotta da un presentatore che per l'agio che aveva sul palco era molto probabilmente il falegname del paese. Non se lo incula nessuno. Salgo io sul palco, provo a fare un paio di battute, non mi incula nessuno. Gli anziani signori continuano a mangiare i tortelli. A che io mi dico, vabbè, qui c'è da fare un lavoro da vecchio comico navigato. Qui ci vuole un lavoro di esperienza, ci vuole contatto, ci vuole empatia. E quindi dico ai signori, vabbè, siccome è la festa del santo patrono in Corte Maggiore, ci tengo a dirvi che io bestemmio molto. Gli anziani signori smettono di mangiare i tortelli. E inizio un mio vecchio pezzo che si chiama Elogio della bestemmia. Gli anziani signori iniziano a fischiare. Però sono distanti, non si capisce bene se i fischi siano di approvazione o di disapprovazione. Io nel dubbio ringrazio. Grazie, siete voi il mio pubblico, grazie! Fino a che a un certo punto non vedo dall'ultima delle panche in legno, quindi da almeno 30 metri di distanza, una signora vestita in azzurro che inizia una lunga, solenne camminata verso di me. È evidente, le hanno dato la fascia di capitano. Mi arriva sotto al palco, mi guarda e mi dice: basta, tu la devi smettere, stai dicendo un sacco di parolacce e qui ci sono i bambini. E in più stai anche offendendo il signore. E la guardo e faccio: signora, mi pagano per farlo. Sono a tanto così dal linciaggio. Con la coda dell'occhio vedo il presentatore che sta per tornare sul palco. E prima che mi interrompa lui, chiudo io dicendo: grazie, siete stati un pubblico meraviglioso. Grazie, Castel San Giovanni, che è il paese rivale. Scendo dal palco, tranquillo, tranquillo, sereno, sereno, perché tanto sono vecchi, sono distanti 10 metri. Se anche voglio menarmi, muoio prima di arrivare. Come scendo dal palco, mi trovo davanti il sindaco di Corte Maggiore. Sindaco che non ha goduto un cazzo. Nello specifico mi dice: tu non lo dovevi dire che noi ti paghiamo. Perché adesso la gente penserà: ecco come vengono spesi i soldi dei contribuenti. E non mi voteranno più. In quel momento, pensando al fatto che il sindaco era della Lega, io ho realizzato di essere un eroe. Signori, la serata brutte persone è giunta davvero finalmente al termine. Fate un applauso a quel bastardo di Andrea Fadenti, la causa per cui la serata è iniziata tardi. Vai a cagare, vai a cagare. Vuoi dire una roba importante? I soldi! Bastardi! Spiega, non puoi urlare i soldi! Che cazzo è? Il mercato? Però i soldi li prendi anche tu, eh? Sì. Custode, organizzo tutto, io tu cosa fai? Io il 10. Cosa vuol dire? Non hai neanche una risposta. Ti ho chiesto che ore sono, ti ho chiesto tu cosa fai? A livello calcistico, no? Il 10. Ah, ok. Magari fuori dalla partita tutto il tempo, però ti fa quel colpo di tacco. Fai vedere un colpo di tacco alla gente. Quanto sei bello, Pietro. Va bene, signori, grazie a tutti. Se vi siete divertiti, ci sono delle buste, buttateci dentro davvero quello che vi avanza, quei 20-30 euro per i ragazzi, padri di famiglia che si sono esibiti stasera. Ricordiamo chi è stato con noi, aiutami. Allora, Francesca Puglisi, che se n'è andata. Silvia Conti era la prima. Silvia Conti era la prima, c'era... Vitale. No, Alberto. Poi... I nomi, Alberto. Alberto Vitale, Francesco Maggiori, Francesco Fanucchi, Enrico Veronica, Robin Scheller e mi sembra... Maggioni, Francesco Maggioni. Ci vediamo il 27, grazie a tutti, buonanotte, guidate come volete. È 2 ore che la tieni.